Claudio. Claudio Sanvier. Sento Claudio. Claudio Sbarbiero, sentimi un uccetto, grazie. Antonello. Attento, Claudio Sparviero, cambio. Senti, stazione del Moro che ti chiama, cappagatte. C'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. Attenzione, binario 10. Ascoltate, non più lui che chiama. Beh, Gianni. Questo è Tarino. Sì. Ma no, ma adesso non ce l'ho. Natale di Arre dice che qualche apparecchio, c'è qualche apparecchio strano che stanno attaccando, per cure magari di qualche malato che ci vicino a casa tua che fa qualche cura particolare. Sì, vabbè, perché mi arriva un segnale tremendo. Sì, no, è qualche cosa di esterno che disturba. Se tu ma la portante chi c'ha da Sant'Agaddu? Cosa ne sono questo fumo a tavola? No, quello da tavola. Come? Il microfono da tavola. Quello di tavola, ecco, il microfono. Eia, è l'Eco Master Plus. Ah, cappa. Pensavo fosse un MB più 5, da. No, questo qui è l'Eco Master Plus. È super forte. È buona come modulazione. Sì, sì, ho visto. Ma non è entrato ancora nessuno, è stato poco fa, ma la gente sulla te. E io ero su Facebook, io mi stavo chattando con degli amici, poi ho mollato via c'è su baracchino. Gara gara. Andavo e quindi in realtà tutto qui adesso. E gli ho messo due toroidi, li ho messo, adesso vediamo un po'. Già l'ho attenuato, gli ho abbassato l'attenzione di alimentazione pure, per farlo più, per attenuarlo, perché sennò quelli piccoli non li posso sentire, mi arrivano per 10 il segnale, è una portante che arriva sul canale 15 e fa molto rumore. Sì, lo so, a queste persone è successa una cosa del genere. Che usavano per un anziano, non so cosa fosse, se, non so che cavolo di apparecchio era, che vi lasciavano sempre attaccato giorno e notte, e la fine è morto, non l'ha più sentito. E evidentemente sarà uno di quegli elettromedicali, sicuramente, può darsi, non lo metto in dubbio, perché tutto il giorno stava questo disturbo, anche con l'antennino, entrava anche con l'antennino. Lo so, se non prende magari vicino a casa a te, non lo sai nemmeno. E infatti, guarda che c'è un break già. Mi rilassa un po', che ieri me ne è successa una allucinante, stavo pulendo la casa, avevo quasi finito, e sposto il secchio col piede, e si è trovato un disturbo, si gira il secchio, tutta la stanza allagata. Yes. Della miglia d'Avona. Ui ui. Comunque c'era un break già, ho sentito un break basso basso. Avanti il break? Mi chiedono dove è il posto modulato, io sono Ciao Giuseppe, beh, se tutti ti avevo riconosciuto già. Doppio rum da questa parte, da Sassari, e Natalino Alfa 1 da Sassari. Giuseppe Alghero, Natalino, non so se l'ascolto. Sì che l'ascolto, se ho sentito il break non l'ascolto. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao, buonasera anche a te. Mi prendi già. Giuseppe, beh, tutto a posto la parecchia adesso? Sì, ma era a posto su te stessi, è tornato quel disturbo. A Giuseppe non l'ho sentito più. E io per quello ho detto poco fa, se lo senti, perché so che da come stava può tornare. È una roba di casa. Ma scusa, non è che c'hai qualche ripetitore vicino o qualche cosa del genere? E di cosa? Boh, che ripetitore. È una portante che entra sul 15, fissa. Sul 15, se vuole ascoltare, a vedere se la sera. E prova. Aspetta, te lo dico io la frequenza. Un attimo che va là. 27.075. C'è, no, siamo andati su 15, non c'è nulla, non c'è il ruolo. Aspetta, 27.175. No, 135, mi sono sbagliato, è 135. No, non va niente, io non sento nulla, è normale. E tu no, vive. Se vi dirate intendi voler assegnare. Qualche apparecchio di andare, abbiamo capito adesso. Attacca, bisogna scoprire da sì. Perché c'è anche per paginata c'è il diritto di modulare, non è che poi c'è la disciplina. Insomma, se c'è una persona malata che da fare. Mica lì quel saccarla. Quello no. C'è una persona malata, l'avevo fatto. Fa proprio un rumore. È come se ci fosse un motore acceso, così. E allora? Aspetta, guarda bene quanto arriva lì. Perché qua quando arrivava a 9.10 adesso arriva più basso. Gli ho dovuto abbassare l'alimentazione a 12 volt proprio. Gli ho tolto l'automatico e gliel'ho regalata io a 12 volt per attenuarla, che se no arrivi 9.10. Fatti scopo, via. Come mio figlio non riesce a attenuarla. Adesso arriva Santiago 2, arriva. Però prima arrivava 9.10, capito? E ti copre, i più piccoli li copre. È una stranetta, è proprio. Cosa? Che è proprio una stranetta. Tanto se ce lo fa un rumore mio, come se ci fossero quelli del furgone. Ho capito. Ma non è che... E che cosa? Boh, non lo so buio. E cosa metto la raga che... con me? E magari tu che le metto da un che sono controllato. Cosa vuoi che ti dica? Ma anche quando avevo l'antennino, sempre è entrato questo rumore qua. E adesso che ho più fatto l'antenna grande è anche peggio. Perché poi va a colpi qua, no? In questo canale qua. Così. Mamma mia, quando ha rotto le palle, ma è ingastata una fesseria che disturba la modulazione. Avrei voluto uno di questi lui di cazzo da mettere nell'alimentazione, a fargli un paio di giri a vedere, boh. Di quelli larghi però ci vogliono. Guarda a vedere se fusarono, eh? Sì. Ma vediamo se c'è la capigliana, sì. Ma ci sente nessuno stasera, invece che sono tutti drumidi. E io e drumidu se ne andate in giro. A me avevo pensato a essere una domenica, perché ha mettato qui alle 6, mi alza, se alle 6 io non sono alzata per mi sveglia. Ecco la faccia, non è fatta di culo. A me mi ha già svegliato, ti rugonto. Sì, ma io dico la domenica posso riposare un po' di più, no? Se per dire chiudo la porta, cominciamo a cugnare tra un casino nero e sveglia anche gli altri. Se invece lo lascio aperta, lui adesso viene, salta sul letto e comincia a leccarmi e a farmi le feste, io alla fine mi sveglio. E a chi devo giocare con te, Guglielmo Sogu? E così, lo sa, il cane è così. Ma il mio non è dannato o cose del genere. Diciamo che sono stato anche fortunato, che sta anche un po' da solo. Questo si mette a piangere se lo levo nel brandino, perché al brandino non ci vuole andare lui. Ho comprato il brandino proprio per lui e non ci vuole andare, ma che devo cucare me? Vai. Mettere un attimo il telefono. Sì. Chi chi è? Va? Ciao. tutti, buona, buona. Ciao Massimiliano. Ciao, sto lì. Io vado a fare la passeggiata al Ghero, c'è una bella giornata. Sì, al Ghero mi va, va. Basso basso ti ascolto, vai. Ti ascolto al limite, là. Andà bene me, andà bene. Avanti, tra. Io ho attaccato poco fa, prima di riposarmi, mi avevo attaccato il mio. Così tanto la tua è pronta, no? C'è niente da fare, ho fatto le prove con Natalino. Tutto a posto. E quindi mi sono riattaccato la mia. Anche perché mi serviva l'alimentazione per attaccare il 756, se no non c'ho alimentazione per l'HF. Andà bene, andà bene. Forse che più tardi vengo. Se vuoi passare, passa a Ghizzo, però che all'otto e mezzo verrà io vento, se no manco ti apro. Già vi credo poco, ma comunque. Oh, mica c'è il Massimiliano. Filippo è dormito. Se non ti apro, tanto c'hai le chiavi, quindi cosa ti apro a fare? Te lo stavo per dire io, che problemi va? Vai, lo va, vai la tua revisione, entro, prendo quello che vuoi prendere e chiudo. Cappa, cappa, Massimi, non c'è problema, lo sai, tutto a posto. Ma non un quarto, va, io penso. Perché non ho voglia di cazzo. Mi si gira le palle, mi vesto. E te ne ho scendo, perché non ne ho voglia, cazzo, sono troppo stanco. Avanti doppio lungo, non siamo tanto a parte. E tanto neanche io le uovo che allora venisse alle MotoGP, capito? Ma già esco prima io là, non ti preoccupare. Ai cazzo, guida la macchina, grazie, miglia di reggo, io lo so, sali un attimino, è già tutto pronto. Mettiamo in macchina, ci fanno la sigaretta e andiamo. No, forse vuoi salire a prendere la ciurmaglia, capito? Adesso c'è mia figlia, sto un po' giocando con il mio riportino, adesso aiuta un po', dopo va là, c'è il tag da Asura. È per quello che se no mi sarei seduto in macchina sarei venuto, ma non c'è problema, Clara. Non ti preoccupi, no, schirriggia. No, c'è schirriggia, è schirriggia. No, adesso ho attaccato l'antenna, quello io mi ci metto poco al 440. Ci metto poco a attaccare l'antenna al 70, io bisogna quello, ma ce l'avevo tutta la mattina, anche poco fa. Capito che doppio rumore, dove sei? Sei sparito? Ah, chi si abbassava mi ha detto che è troppo, che è asimoso, te lo regalo. Cazzo, questi milanesi fanno pietà, cazzo, fanno pietà. Il Milan vincendo in Madui 1-0, si è fatto due gol, ha perso 2-1 in casa con l'Empoli, l'ultima in classifica. Come ti ha fatto l'Inter a rimani? Cosa? La battaglia cosa? Da schifo, capito? Non si può perdere in casa. Un Milan che è fortissimo con l'ultima in classifica con l'Empoli, 2-1 ha perso in casa, roba la matti. Così ha fatto l'Inter ieri, a matessi cosa? C'è su, che schifo. L'Inter è anche fuori dall'Europa League. Non solo dalla Champions e dallo scudetto, fuori proprio da tutti i titoli europei. Una cosa allucinante e vergognosa che l'Inter, vergognosa veramente. Ma fu per sei a me, io Juventino sogno. No, io hai visto che è morto. Ehi, me l'hai detto, signor Gabbia, ma quello che mi dà sempre le sigarette è sempre sorridente. La mattina è morto, e allora? Ma uscì? E io improvviso. Se sono andato ieri anche. Cazzo, era tranquillo ieri. Ma non è morto al bar, no? No, a casa sua. Infatti stamattina sono uscito a prendere il caffè, cazzo è chiuso per rutto. E a casa sua io abbiamo niente. E uso come state di Rasarrado, che era andato a campo. È morto il padrone, no? In campo a quell'uomo, gentilissimo, sempre sorridente. Io ce l'avevo, diciamo, quando ero libero di domenica. E ci picchiava. E qualche fatto allora, perché non penso che era malato. No, te lo sto dicendo, Cla, era tranquillo. E cosa vuoi ti dica? E vabbè. Dai, riprendete, io vado a fumare una sigaretta, là. Esco un po' da casa, gioco tutta io, sono andato in casa. Ehi, non aveva certo Gianni, non riprende, doppio rumo, dove sei? Sua era, solo che l'avranno telefonato, sarà al telefono. Al telefono, vediamo a Valerio, dove sei? Marca di noi, cosa sei andato a pigliare animali qua in Bacca? E gli ce n'è di cinghiali, basta prenderli. Forse la nipote sta guardando la televisione. Sì, mi casino quello lì, mamma mia. Non può parlare tranquillo, già è solo una telegana, insomma, non può parlare perché disturba la TV, c'è sugar. La spegne, Natalie. La spegne. Lui non ha telecomando, schiaccia il PTT e spegne la televisione. Su quel rumoraccio che c'ho stasera, che anche io le avrò. Mamma mia, che rottura di scatole, sto QRM strano, Sì, ce l'ha un po' più attenuato, però ce l'ha, ce l'ha. Anche di domenica, no? C'era qualcosa, dei motori, sarà. Io con caso, prima di uscire di casa, c'era la radio accesa. QRM, non QRM, avevo questo rumore, il solito rumore tipico del disturbi elettrici, sembrava una nave, usciamo, oh, queste macchine, usciamocene perché altrimenti qua mi fa impazzire questo rumore. Anche io ho questo rumore così. Un rumore così brutto, meno male che è basso di segnale, è 3. Ma questo rumore così brutto, per carità. Adesso è stato tempo palotto. Ma prima questi rumori non c'erano qua, se io vivo mi ricordo. Cosa vuoi ti dica? È un periodo che è così, io lo stesso non ne avevo, io ce li ho solo quando piove o quando c'è vento forte, che ho le tralicci dell'alta tensione, e poi c'è la centrale Enel qua a 500 metri, in linea d'aria, capito? E a me Antonello ci ammazza. Ho giornate così, non ne ho mai sentito quindi questi rumori. E chi è che c'ha i rumori? Io ho questo rumore, sul 15 c'è un rumore che fa ma forse dicevi più forte sul 10 ce l'ho più forte qua Natali che sul 15 figurati ma a me già me l'ha attenuato meno male allucinante vabbè il dottore vede che te l'attenua sì ho fatto prove per te male ma c'è sempre faccio cazzo va già non lo fa più a 9:10 è rumoroso se rimaneva così quelli piccoli non li sentivo un rumore ronfio vabbè ma quello di già te l'attena non c'è problema per questo cappa attento doppio rum 9:6 vabbè vale ce n'è gente a capocaccia porto qua bella giornata, adesso però inizia questo cacchio di venticello freddo. C'è una mattina stavo uscendo al lavoro, anche stamattina sono uscito al lavoro con giubbotto invernale. Sono l'ho tolto rientrando verso mezzogiorno. Capite? Ma non l'ho tolto in macchina perché c'è vento freddo, non si capisce cosa voglia sto tempo. Tramontana è Gesero. Vabbè, ce la prendiamo, speriamo che passi. Adesso esco, a Napoli, quando sono belle giornate. io devo scappare da casa. Vediamo come la prendo il tuo auto. Non ne ho voglia, ho lavorato stamattina, sono stanco Giuseppe, e mi rimango a casa, hai capito? Sì, sì, sono già in pantofolo io, in attesa che inizi lo sport per guardarmi la Juve e basta, poi si cena e domani si inizia la giornata lavorativa, che non ti dico tutto quello che c'ho da fare sta settimana. Proprio a trottare e trottare, salterò anche il tango sicuramente. Sì, sì, purtroppo è un feeling giornaliero il mio, saltare il tango, rientrare tardi, correre a destra e a sinistra, capito? Oramai è un'abitudine giornaliera, quindi non è che mi preoccupo più di tanto, però se fosse un po' più tranquilla la giornata, meno movimentata, meno veloce, forse avrei lavorato anche meglio, però purtroppo così e così deve andare. Sono dei rumori strani, ce li ho anch'io qua sul 10, anche sul 15, però sul 15 è un po' più attenuato, capite? Mentre qua è un po' più tosto, cosa vuoi ti dica? No, vabbè, pazienza. Ci prendiamo anche questi rumori, dai, non succede niente, vediamo se è rientrato Gianni. No, Massimiliano. No, vai Natali. Che ci sono io? Milo mia Gianni. Stavo mangiando la merendina. E magna magna. Ti immaginate? La merendina, dai, no? Senza dubbio. Allora a Pignara, stai pranzando adesso? No, sto pranzando. Che è venuto lo scrivizio, va. Aspetta. Valerio. Aspetta che... Madonna, cosa c'è di macchine qua? Adesso c'è uno che sta uscendo dal mio parcheggio, perché questo è il mio parcheggio personale, e mi uccido io. Ma non si è porto con Cassassari, sì. No, capo cazzo. Ma lo sai quanto ti arrivando, ti faccio la foto e te la mando. 9 più 20 sei qua. Esagerato. Ti faccio la foto e te la mando. 9 più 20 sì, attaccato sì. Attaccato. Attacco, guarda, così sono liscio, liscio come il culetto di un bambino. Così sei 9 e 5, fate il conto. Così aumenta qualcosa, minchia. ma c'ho pochi passi, mi sono saranno 40 e 50, non so. L'antenna è anche. Ma bestia con l'antenna. Mi sento sotto casa tua quando stai parcheggiando lì, che è triste dove sei, perché vedi i palazzi. Santiago 9. Fate un passaggio da 9 più 20. Vabbè, avanti. Vabbè, tieni conto io qua in alto, tu. La posizione che c'hai adesso porto conto, che non vedo dal mio terrazzo, porto conto, devo fare io, porto conto, figurati, sei davanti a me. Va bene, avanti già. Ehi, ehi, adesso sono qua, cioè, un attimo l'incarico del telefono, mi si sta scaricando. Ehi, ehi, gappa, gappa. Dici, 20, 30, 30 watt ce l'ho io. 30 watt, vale, quanto è il segnale? No, non stavo guardando, prova. Guarda, 30 watt, ula, 30 watt, modulati 40, vai. Qua sono 9,10. Già va bene, meno porto con te, proprio è un tiro di valla. Si vede proprio il faro del portoconte dal mio terrazzo. Ma io qua, vabbè, sa se non lo vedo, qua ci sono i monti qua di coso, di coso, di paesaggio, là non vedo, però vedo qua, vedo il paesaggio, vedo Pedro, sai, vedo Osilo, e sa se è proprio di sotto, vedo Osilo e poi tutti gli altri paesaggi. Sassari non lo vedi la mia zona quell'alta? No, non lo vedo perché c'è proprio il monte qua di Punta Giglio che, capito, è leggermente più alto. No, non lo vedo. Mamma mia, attento al monte lì a Punta Giglio, se ti vede Schettino guai. Vabbè. certo, mi distruggi, stavo morendo dal caldo. Mamma mia, un caldo dentro, c'è no. Ma che c'è caldo, poi c'è quell'aria, sempre con l'aria fredda, eh. Però si sta bene, si sta veramente bene, il mare è calmo, meraviglioso. In Inghilterra, speriamo che non ci dia qualche batosta d'acqua, almeno. Un giorno di, siamo al 25, vabbè io il 25 già lavoro, non è quello il problema. Tanto ormai ci ho abituato, quindi. Prima arrivi a fine mese, e trovi con le due 300 euro in più, no? Capite? Poi i miei colleghi, cazzo quanto prendi, però lavoro sempre io ai festivi, gli altri se ne stanno a casa, capite? Ah no, gli altri se ne stanno a casa a grattarsi le palle, no? Invece tu lavori i festivi, le domeniche, e non ho capito bene, tanto quello è, certo, i soldi sono di più perché lavori anche durante le feste, non ho capito. D'altronde, se vogliono lo devono fare anche loro, lo devono fare, capito? Sì, non si impiccano i prima, ognuno a pari mio che è un referente, lui le feste è sempre il permesso, sempre il permesso, tutti i giri, ma ero vero, tu mi permesso ho chiesto oggi, sempre. Sempre, sempre, si è fatto Pasqua e Pasquetta, mentre dovrebbe essere a turno, no? Non fa Pasqua, non fa Pasquetta, non capite? Niente. Io mi ho fatto Pasqua, Pasquetta, mi faccio il 25 aprile, mi faccio il 1° maggio, capite? Poi si lamentano, hai capito lui, no? Lui sta a paga piena, e poi lo travaglio sempre io e tu sei sempre a casa. Basta che lo facciano anche loro, capito? E coprire i turni, invece di farlo sempre tu, coprire i turni, e vedrai che anche loro guadagnano, molto più, non ci vuole niente, no? Basta farlo. Ma voglio farlo, per carità, bisogna fare mandroghe, allucinante, lascia perdere. No, ma a me non mi interessa, ma è capito, no? Impegni, capito? Non ho bambino a portare al mare, ad andare in campagna, eccetera, siamo io e mia moglie, mia figlia è già dipendente, quindi non mi interessa. Io mi lavoro perché i soldi fanno sempre comodo, no? Almeno per gli sfizi, per le cose che devi fare, capito? E quindi mi lavoro volentieri. Però dico che ci sia una volta di ecco, oggi riposa e lo faccio io il 25, la vita è fatto Pasqua e Pasquetta. Tutti i giri 5 minuti, quando devo chiedere tutti spariti. Perché non c'è organizzazione, da noi te ne cucano loro, te lo mettono loro quello che devi fare. Cioè fanno per dire una Pasquetta la fanno fare a te, un'altra volta la fanno fare a te, per dire l'ho fatta l'anno scorso, la Pasquetta quest'anno non l'ho fatta. Già, io non parlo di conduzione normale, io parlo di, insomma, diciamo responsabili, capito? Noi siamo in tre, quindi in tre uno di Cagliari, l'altro non è di Sassari e quindi se ne vanno, ma a me non mi interessa, io non mi protesto, io li faccio volentieri, poi io sono uscito a mezzogiorno per lì. Capito? Anziché uscire alle 1:30 sono uscito a mezzogiorno, Pasqua e Pasquetta sono uscito alle 11, me li faccio io i permessi, capito? Io sono timbrotto autonomamente dal telefono direttamente, quindi faccio io, no, non è quello il problema. Infatti sono passato da una palina, ho portato due toroidi che mi ha dato l'elettricista stamattina. Però dico che ci sia uno che ti dice, dai questo turno lo faccio io, tu statene a casa, no, manco guardante camera. Uno è parito Vennari, si è fatto sabato, domenica, è tutto il conto, rientra quando rientra mercoledì mi pare, o giovedì, adesso non mi ricordo. L'altro non so che fine ha fatto, l'azienda che dà l'ok, non sono mica io. Io ci arrangio per i fatti miei, non ce n'è problema. A me, dimmi quello che devo fare, e io lo faccio. A me il lavoro piace, quindi vado volentieri, non sono a fare picco. Un giro in macchina, stamattina un bel caffettino all'Isola Rossa, un bel controllo, ce l'ha fatta, domani inizio la settimana da solo, perché ho due sono in ferie, è la mia zona, e quindi casino a tutti. Va bene lo stesso. Tanta lì, ma guarda questo rumore che ho anche io, ma tu non ce l'hai Gianni questo. No, ma ragazzi, fai mangiare le pettitori da te. Una roba da mattina. Roba da mattina. Meno male che è basso. No, è basso perché sto usando il 440. Se con motore 70 ce l'ho a 7-8 quel rumore. Qua ce l'ho a 2-3. È strano, che ci sono questi rumori. Occhio. Scusa, vedi, in questa posizione adesso volevo sentire la Natalino per vedere come arrivava, perché l'ultima volta era Santiago Zero e la radio era incomprensibile. Adesso vedi, adesso che c'è l'antenna volevo proprio sentirlo. Adesso mi senti, guarda come ti arrivo. Mamma mia, prova un po', mamma mia! Avanti, vale là, prova! Ma guarda come ha migliorato, Claudio, ma guarda come ha migliorato. Allora, la volta scorsa era Santiago Zero, la radio incomprensibile. Adesso la radio 5, e Santiago 5. E c'è l'antenna bassa, c'è una buona zona anche lì. La città si è portata a conto, è tutto 5-5, ottimo segnale. Ascoltami a me se segnali, così sono in posizione massima del power dell'apparato. Controlla a vedere come esco. Santiago 9. Abbasso la posizione come era poco fa, come era poco fa, l'abbasso e guarda quanto esce. Santiago 9, sempre 9, strano, perché ho abbassato il barato. E adesso ti faccio un altro passaggio, vediamo un po'. Ormai da 9. E stai arrivando come Claudio, Santiago 9-10. Andata, andata. Ti fatti la corineare già. È mio. Certo, dai, no, 85, 90, ma è la 100. 100 watt, quindi con 100 watt arrivi 9-10 come me. Io sono con 30-40 modulati. È la posizione. Se io metto 100, diciamo se ci arriva a 100 questa radio. Non sai che non me la ricordo, se ci arriva a 100 watt va lì. Guarda, non modulo, però guarda da così va lì. No, ma la base, ma dentro la macchina, sì. Si lasciare, maledetta. Quanto era a 100 watt? 9,20? Sì, già, 9,20 era, è un pezzo. Vabbè. Ecco qua, rimettiamo la 30 watt. No, non lo tiro mai perché... No, non mi interessa. Già va bene, l'importante che arriviamo. Oh, la mamma mia, come sto? Mio altro amico, come sta? Come stai? Male, male. La donna, oh. Io sono con un watt, va lì. Non c'è un watt? No, non ci credo. Un watt? Vabbè, questo è di quelli un po' pompati, Ah, un po' pompati, allora portate Santiago 3, ma non moduli Santiago 5. Guarda, così è pompato, vedi un po'. Ma è detto bastardone, 9. Sono troppo leggero che sono un watt. E aumenta anche la modulazione di brutto. Già lo so. Già lo so, ma lo tengo sempre così, ho mezzo watt e già una trentina modulati, 25, 28, 30 modulati, là. Ah, già va bene, già va bene. Io qua sono praticamente sono libero, capito, in alto. C'ho un mostrare di un monte qua che mi copre e basta. Perché poi sono libero. Sì, ma si è attaccato però. Attaccato cosa? No, il lineare è spento, la macchina è spenta e Ok, Santiago 7 a picchi di 8. No, tanto, tanto mi sento... Ah, bella quella barca, bellissimo. Quanto mi sarebbe piaciuto andare in barca adesso? Normale, così calma, una bella fine. No, lineare lo accendo solamente quando il motore è acceso, altrimenti prendo la batteria. Va bene, va bene, ok, tutto roggero. Attacca, vorrei che ti do il segnale. Proprio così, però sono motore spento, Aspetta, parla, accendi il motore, parla. Motore acceso. Pronto, pronto, pronto, pronto. Siamo attaccati. Pronto, pronto. adesso te lo mando, ti mando il coso per se ti sto dicendo balle. Si sciuglie, non balla matti. Qua è 9. Qua è 9 più 20. Vabbè, lì tu sei molto in alto. Io sono molto sfavorevole per la zona di Alghero, eh. E mangiare più bene. No, non sono ad Alghero, sono a Capocaccia. E vabbè, sempre quella è la zona. Capito? Io sono molto dietro, eh. Io sono molto dietro Capocaccia. Io per Alghero non sono molto positivo. Vi ascolto, sì, però non è una posizione giusta. La mia posizione giusta verso la parte opposta, tipo Costa Paradiso, quelle zone lì. Ah, ecco, sì, tu da quella parte lì sei tu libero, sì, c'è ragione. Io, vabbè, qua sono in alto, sono anche un po' libero, diciamo, rispetto al Sassari. Anche Porto Torres è lo stesso, non ci sono problemi. Questa sarebbe una zona buona a costruire, mi fai una bella villetta per piantare un bel traliccio, dalla! Già arrivi, già stai arrivando. Ma sei Giuseppe, chi è entrato? Chi è? Vabbè, mi pare strano che non arrivo. Ciao Sandro, buonasera, ben sentito. Ascolta, fai una cosa, piazza l'antenna lì e portati il cavo d'Alghero. Cazzo, mi sembra strano, Valerio non ascolta Porto Torres. C'è il detto che già arrivi. Vale, lo ascolti a Sandro. Ma c'è la portante, c'è, scusa, eh. Lui è la portante, chi può essere? No, un momento, già siete poco veloci. Ciao Valerio, salutoni a tutti. Sta parlando, avete parlato in due. Vai Sandro per Valerio, buonasera. Vediamo un attimino. Valerio. No, non ti sento. Ciao Sandro. Va bene, dai. Già lo sai che io ti sento dappertutto, come Claudio, lo stesso, dappertutto. E non confonde adesso la lana con la setta, vai, farà bravo. Vabbè, tu sei il perno, sei più forte. Insomma, lui paragonare alla zona del produttore se ci butto tutto, vai. Buonasera, Tigre. Buonasera. Valerio, non fare lo sbaglio di contraddire la torre di controllo. Bravo, bravo fratello. Lo so, Claudio è il perno, quello che fa girare tutto, no? No, tranquillo, no, sì, può stare tranquillo Claudio. Non confondo assolutamente, lui è più forte e basta, non c'è niente da fare, poco anzi ha aumentato un po' di potenza, mi è arrivato a 9,20, vedi un po' tu. Sì, vabbè, la zona è, se no già ce ne di furti di me, non c'è problema. L'importante è ci ascoltiamo. Oia, vediamo, Natalie. Oia. Io dico qualche cosa. E cosa dico? Non ti posso passare un'altra lacrima. Intanto saluta Sandro Tigrotto. Ciao Sa, ben sentito, buonasera. Buonasera anche a lei, dai. Sono entrato solo con i saluti, per farvi saluti e farvi una buona serata. Vi ascolto altri 10 minuti e io sto uscendo. Oh Sa, hai visto che è morto? Mamma mia, vabbè, dimmelo, aggiorna. Signor Davide, dove andiamo a San Giovanni stamattina? Signor Davide, San Giovanni, ma quello era quel signore sempre, perché ti faccio questa domanda? Perché non sapevo neanche come si chiamasse, quello che era sempre lì alle sigarette. Sì, il padrone, sempre gentile, sorridente, è andato Massimiliano ieri a prendersi le sigarette, eccetera, stamattina ha chiuso per lutto. Ehi, all'anima. All'improvviso, Massimiliano. Mi hanno confermato poco fa, si è alzato, si è fatto la barba, stava andando a aprire il bar, invece non ce l'ha fatto uscire da casa, si è seduto nella poltrona, un infarto fulminante. Usato in poltrona, e l'ha trovato la moglie seduta in poltrona. Allucinante, raga. Va bene, lascia l'anima sua. Sarete bellissimo Massimiliano, mamma mia, le cose di sono allucinanti, quello dello stress, una cosa del genere, che tu, una settantina d'anni avrà avuto, 70, 75, tu, non lo so, ben sempre ardillo, non perdona maledizione, non ti ho avuto riprendi, no, Gianni non riprende, riprendi Natalie. E allora, grazie. Mi ha zippitato il che ha impatto fulminante. Beh, a quel ritmo, un uomo di una certa età, tutte le mattine andare a aprire il bar, apre molto presto, mi capite? Stare lì in piedi, alla caccia, con i clienti, e quello è un posto dove si viaggia forte. È chiaro che accumuli, poi mi spiace perché è uno veramente molto, era molto in gamba, veramente. Educatissimo, sempre gentile con tutti, no? Ma ci picchia. Allora, avanti, vale. Quello 3. Quello 3. Lo 3 poi appunto. Aspetta. Allora, anche a me è stato un dolore qui al petto, aspetta. Speriamo che venga un colpo secco. E cosa vuoi che tu dighi? E cosa vuoi? Cos'è? Io sto dormendo qui. A posto non lo so piangere. Vabbè. Vale, meglio di dire una cosa. Ma tutta questa prestazione è come se la fatta. Basta. No, io ho qui a fianco del campo del posto, del lineare c'ho sotto sedile del passeggero. giusto mi ci sta giusto il barattino, ho detto il barattino, gli ho detto anche a Massimiliano di mandare in quella posizione e non posso mettere altri apparati sull'altro. Che domani mando una fotografia, a una foto che ho fatto del baracchino, della posizione, dello spazio che c'è, la mando a foto a Claudio, e Claudio te la mando a te, Massimiliano, così vedi la posizione come messo. Va bene, non c'è problema. Portala qui quella macchina che te lo piazzi, un macchino grande. No, mi deve stare qui in questa posizione, io lo voglio vicino. Ah, te lo metto vicino, te lo metto, non c'è problema. L'hai visto il segnale che ti ho mandato su WhatsApp? Ma è 9:10, non è 9:20, perché 9:20 ti avanti. 9:10, no. Di più era poco fa, allora ti sei spostato. Prima di arrivare lì a parcheggiare era 9:20. Ah, boh, buonasera. Eia. Quando ti metto una sciacca, dici. Qui stavi parcheggiando, forse quando ti sei spostato, lì ci deve essere un punto appena più indietro, appena più avanti, dove aumenta ancora di più il segnale. E cosa ride? 9:10. Arriva a 9:10 la sciacca da me, figurati. Sandro, stai preparando per andare alla tournée, dove stai andando? Vabbè, Sandro. Ma sempre in giro, Sandro. Preparato. È tu lui che lo può fare, che è sempre in giro, ma è già che ti faccio. Poi si lamenta. Allora, sono stanco qui, sono stanco là. Se ne è lasciato divertire. E chi lo tiene? Chi lo tiene anzianotto, com'è chi lo tiene? Va, poi anziano. E allora non è anziano, non sapisce che ci abbia 40, 60 anni c'è però ancora già il grillo. Mi raccomando, giorno 26 fatemi gli auguri, 26 di cosa? Di questo mese? Fatemi gli auguri, vieni e paghi da bere. Sì, va bene, dai. L'ho portata, Era bussata, fatto, te l'immagini, ce ne è scappata pure la risa a questo Valerio, ma te l'immagini? No, gli auguri che glieli facciamo, ma magari si può fare anche una scappata a Sassa, i 20 minuti di macchina, così, oltre alla benzina ci paga il caffè anche. Qua posso fare anche di meglio, vi posso invitare una pizza. Ehi, la Madonna. Hai quando volete, ditemelo, ti invito io. Quando fai così ti temo, Valì. Guarda, Valì, che ti ho mandato una pizza, guardala bene. Niente, ti mando qua. Ah, ma la pizza, io te lo mandai per la popolata, se io sono... Io quando dico una cosa è quella, e boh, lei non si scappa. Mi te l'ho mandata in algherese, così la vedi meglio, guarda, beh. Ogni trozzo di pizza. Vabbè, no, io non posso venire perché non mangio pizza. Ti piace? Ti ho messo che te l'ha mandata a Massimiliano. No, me l'ha mandata una ragazza veramente, che adesso mi ha rotto le scatole. Tu caccione, che noi altra che... Tu caccione? Chissà dove l'ha mandata. Ti dico anche chi me l'ha mandata. Me l'ha mandata la titolare del bar quadrato, sempre mandando che ti voto. Ma che ti la posso vedere dal vivo? Che? E allora? Quella ti sta provocando, Cla. Oh, io. C'è la razza di cose che manda. Che. E si ridia da voi. Vabbè, comunque, vale, teniamo conto che è il 26 tuo compleanno, che quindi devi fare la pizza così. Vediamo, per me non ci sono problemi. Io non mi tiro indietro. Ma che senti, 10, 20, pago io. Ma io lo posso venire. No, non lo fai del caso, dai, Massimiliano, tu devi venire. No, io non è che non posso venire, io non mangio pizza, capito? Ma il cotoletto ci facciamo fare, Massimiliano. Quello che vuoi, mi. Ah, se mi dici così, dove andiamo? Allo Spittighetto andiamo. Va bene. Realizziamo venerdì però, venerdì sera. Quando volete, io sono sempre disponibile. Sempre dopo il 26, dopo il tuo compleanno, prima non si festeggia. Va bene. Il Valerio ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Mira, voi che inteso, Pippo mi. No, va. Chi c'è? Vieni a nonno. La volta inteso. Pippo, vieni qua. Mia, Massimiliano, mi. Vieni. Mica c'è Massimiliano, mi. Dormito ieri sera, grazie. Un ghiro. Ha mangiato, si è sdraiato nel sorrettino, che c'è? Me? E te? Me? Che c'è? Sono un po' strapazzato ieri sera, Natali. Ci aveva la lingua in terra. Il poveraccio. Già lo so che lo giochi tu. Ha appoggiato a Gaia. Il dritto è più alto di Gaia. Sì. È bello. Ma Sandro che fine ha fatto? Sandro, entra da Rione, esci da Mazzone, il vatto. Sempre così fai, entra e poi sparisce. E non sparisce, che sta facendo le orecchie pelose, sta ascoltando a vedere se diciamo qualcosa, capito? Sandro, ascolta, non posso dire ascolta zio, ascolta tuo nipote, sta, rispondi dai. Sta preparando, sta facendo bello, deve andare al concerto stasera. Già, sarei voluto andare anch'io a questo concerto. Oh, Vali, tu mi dici che non ci sta la radio qua, ma lascia perdere, aiuto, dai. No, ma sì, mira, non ci sta, no, veramente, io non posso mica andare indietro ancora a sedere, perché come si vede indignare, vabbè, anche se l'ho perso. Però non va bene, io ho una stampa che si sta sotto l'autoradio, una stampa di un acciaio, ma va bene, c'è il produttore delle lineare e l'altro produttore per la ventolina del lineare. Capito, non va bene, no? Perché poi da fastidio anche al passeggero. Beh, guarda che io la mia macchina è più piccolina, ci sta, capito? La mia la macchina è più piccolina ancora. Lo metto un pochettino di traverso e rimane sempre vicino. Vedo. Non lo so, guarda, non lo so. Vabbè, un giorno ci vediamo di persona e tu lo vedi di persona com'è. Che poi che domani confrontiamo un tuo apparato, va bene. Lo presentiamo così vediamo un po'. Se ci sta bene, se lo prendo, 3.000 ciccia, ok? Sì, ma non è un problema, vale. Non è un problema, però ci sta, vai tranquillo. Alla perfezione ci sta. Ok, poi mamma mia. La faccia funzionata, ci brucia il sole qua. Allora, se tu Gianni Tullio, quella staffa che c'è a fianco al baracchino, col microfono, quello già lo spazio del baracchino grande. E poi il tuo apparato c'ha lo spinotto del microfono che è di lato, no? Meglio ancora. Tu dici meglio ancora, mi occupa più spazio. Ah, vabbè, lo spazio già c'è perché c'è tutto lo spazio dell'autoradio. Sì, ma poi lì vanno anche gli spinottini al posto di essere così a 90 gradi, capito? Ah, il connettore qua a 90 gradi, ho capito, sì, c'è ragione, vedi, andrebbe anche bene, sì. Vediamo, lo presentiamo un giorno, ci vediamo, lo presentiamo, vengo a vedere dove vuoi, tanto per noi c'è un problema. Si presenta e si vede, se ci sta bene, ok, altrimenti ciccia, ok? Già va bene, avanti Claudio. Ehi, prendi un'altra lì che sto facendo una cosa, un secondo. Fai. Volevo sapere se c'era Gianni. Si è fatto un'entrata di via, un mette sandra ha fatto, esci da Rio Mazzò. Ma già a Cutene, un preso un attari. Stavo ascoltando, capito, stavo facendo le orecchie da maiale, quello grande, però il ferro. E allora, orecchie pelose. Fatti l'ascolto, sto. Allora, la Pignara sarà Platamona. Sto ascoltando, stanno, capito, a me se dici qualcosa di male. E allora, Ratapignara sarà Platamona dalla fidanzata. Chi tu sarà ancora dormito? Quello sarà addormentato, adesso si alza e si mangia. Ehi, già è bene, sono di sì quasi. Pesso, grazie a razza di orari. Mamma mia come sto. No, che vita di merda che fa. Ma questa la sarà voluta lui la vita così. Cioè io non dico che uno deve mangiare, cazzo, all'ora perfetta, vale, fai che mangi alle due e mezza, ma non alle 6:30 di sera, dai, che è una vergogna, neanche per chi lo sente. E poi la cena che ora la fa a mezzanotte? Ehi, a mezzanotte, l'una, ha capito? Ma c'è tutta la lì, drumidu, cazzo, è un grido, bubu. Non esiste, non può esistere, assolutamente, no, puoi fare. E poi non vive, cioè se vuoi uscire il pomeriggio non può uscire perché sta dormendo, ma dai. Anche belle giornate così, è bello, ti alzi presto. Io, guarda, io ogni giorno per andare a lavorare mi alzo alle 4:30 la mattina, 5:20, ok? Il sabato, la domenica, che posso rimanere nel letto, io esagerando alle 6 sono già sveglio. E anche io sono così perché sono abituato a alzarmi presto, capito? E io vado chissà pucciare un cane, che non so cosa va. Ma Natale, io non dico che uno, cazzo, no, debba mangiare mezzogiorno, l'una, no? Il sabato, la domenica dopo mangiare l'1:30 alle 2, ma no, cazzo, alle 6, alle 7 di sera, dai, che è una vita da ebet è questa. No, ma poi sta tutto il giorno addormentato, non è che sta solo la sera, no? Tutta la vita, anzi. Vabbè, ognuno ha il suo tenore di vita, ma comunque è un po' tutto particolare questo suo, ma non fa niente. Avanti Claudio. Dai, io voglio già cucciarmi. Oh, mi sto staccando la radio tua, sto mettendolo in partenza, ho rimesso 4:30 al suo posto. Ah, c'è anche Giuseppe. Giuseppe, riprendi se mi ascolti. Vale, forse non mi ascolta. Giuseppe, dimmi. C'è Massimiliano che ti sta chiamando, forse non lo senti. No, ma io gli ho risposto a Massimiliano. Giuseppe, ti ho rilanciato, forse magari, non lo so, non l'ho sentito bene. Infatti ho detto, aspetta che facciamo riprendere Giuseppe, che c'è anche Giuseppe. Avanti, Giuseppe. Allora, non è abbastanza bene, no. Solo che io sento con Santiago di 8, però ho delle bande laterali, adesso non so se siano nel 9 o nel 10 che mi stanno, te le stai portando dietro, ma è per colpa mia, e adesso inizia un po' la propagazione, capito? Adesso inizia il casino. Mi sa che non sentiamo più Alghero noi quando inizia la propagazione. E noi la stessa cosa, non sentiamo più Sassa, solo Claudio e basta. Ehi, vabbè, vuol dire che sentiremo la Spagna se non sentiremo la Catalogna. Che vuol dire che vengono tutti qua a trasmettere? Ehi, non c'è problema, io se mi faccio ascoltare anche ad Alghero, basta mettere un foglio di carta sotto i piedi. E io ce l'ascolto Alghero, non ti preoccupare. Ascolto Giuseppe Riccio, Santiago Otto, quando attacca è più di nove, quindi non ce n'è problema, non ce n'è. Poi possiamo costruire una base finanziaria. Allora, facciamo così, Giuseppe. La piazza l'antenna nuova, qua? Sì, decidendo stiamo. Cazzo, c'era quella bella manto, va uno che ti ho fatto vedere l'altro giorno sul mercatino, 70 euro. No, non vuole mettere l'antenna, se mette l'antenna mette uguale a quella di Natalino. Cosa di più? Io ho capito, ma è leggera e va montata sul palo esistente, capito? Non possiamo mettere altri pali. C'è da abbassare tutti la Gran Prix e mettere quella lì, che c'è il cavallotti, uguale, capito? Quello che c'è si può aumentare il palo, sollevare? Sì, si può anche aumentare di un elemento, non c'è problema. Dai, allora va bene. Va bene. E Natalino l'ha pagato un po' caruccia perché quella è Midland. Se la cerchi un'altra marca, magari con 70 euro, 60 euro la riesci a prendere. Lo so, però quella lì è Midland e costa così, cosa vuoi fare? Ed è buona, quanti antenna. Sì, va bene Natalino. Io ho voglia, la grande. Lo sai se metto un'antenna lì dal Ghero, Giuseppe, come spara qua? Ehi, se metto un'antenna buona la mia. Ui, a sui Grand Prix, cazzo, si pone l'antenna uguale alla mia, non ha bisogno manco di attaccare nulla. Se si decide a mettere qualcosa, boh, non lo so. Cosa ne pensi tu, Vale? Io sono andato a mandare le foto a posto, Claudio. Di che cosa? Abbiamo fatto le foto, no? Ce l'ho fatta lì, vabbè, tu le ho fatte... Forse l'ho fatta a me, ma quello che ho fatto io è uscito un po' male. Ha fatto le foto all'antenna, no? All'antenna di... diciamo all'antenna, al tubo, come è posizionata, il tubo, no? Per farti vedere che cosa bisogna fare. In poche parole, c'è da abbassare il tubo, abbassarlo, perché il tubo sta all'interno della grondaia, no? La grondaia è bucata e c'è il tubo all'interno, capito? Basta mollare il tubo, abbassare e poi salire sopra il cornicione, solo sopra il cornicione, tirare sull'antenna e piazzarla, casomai aggiungere un altro pezzo di tubo, capito? Penso anche di cambiare il cavo, perché quello cavo lì è male, ci avrà una pizza, dovrebbe essere anche quello. Non so se te la mandate le foto, boh. Sì, che me la mandate, sì. Ma è piazza davanti alla Giuseppe, è una stupidaggine, capito? Ci vuole più a mettere la scala che mettere l'antenna. Vabbè, la scala già la porto io, non ci sono problemi per quello. Vedi, se metti una bella 5 ottavi lì la musica cambia. C'è un granchio come antenna. Vabbè, vedi, un'antenna vecchia, arriva già 8 qua. Ma quella comunque non è quella mi sembra sia un quarto d'onda, quella Grand Prix. Se metti una 5 ottavi e la sollievi di un paio di metri, arriva bene, là. Così è Giuseppe. Aspettiamo il bel tempo per prendere una decisione, vai. Ci vuole più a dirlo che non ha fatto, non ci abbiamo fatto. Forse si può montare a montare a il terminale. No, il terminale è più distante. Vabbè Giuseppe, ma visto che la metti, la sollevi un altro elemento e così si è a posto, capito? Il bel tempo è già arrivato, bisogna decidere se cosa vuoi fare o se metterlo o meno, comunque. Vedi tu? Conviene metterla, tirarla un po' su, perché altrimenti rimane sempre vicino all'antenna della televisione. E infatti. Vabbè, quella non disturba, che abbiamo visto da Natalino che il radiale ce l'ha puntato sopra la sua antenna e disturbi non ne fa. Però, visto che lui è in una posizione un po' bassina, conviene magari, oltre quel palo, si bussa un altro metro e mezzo, almeno un altro metro e mezzo e la tiri un po' più su, capito? E come cavo momentaneamente andrebbe bene anche un 58, un R10-58, tanto non c'ha queste grosse lunghezze, capito? Neanche perdite, tanto lì scendi da lì e sei arrivato. E appunto, che non deve neanche mettere potenze assurde, no? Cioè va bene, sì, R10-58, cioè va bene, tanto di cambiare quello lì che ha, perché quello è vecchio. E appunto per quello, mi sembra che costi intorno boh, 80-90 centesimi a metro. Cosa ce ne vorrà? 10 metri, 15 metri, o 15 euro prende il cavo. Due PL nuovi, l'antenna nuova con un'ottantina di euro, 90 prende tutto. Sì, è voglia. Sì. Altro che se prende tutto. È solo da decidere. Sì, appunto, le giornate ormai sono... Se fa qualche giornata brutta non è questo pericolo. Già va bene. E decidiamo un po', vediamo un po' il prossimo mese, vediamo un po' di fare tutto. Tutto dipende da cosa dice Giuseppe. Tutto dipende da cosa dice Giuseppe. No. Comunque il cavo è... Ti sto dicendo che è aggiunto, non c'è un'aggiunta, perché dentro casa è più grosso il cavo. No, nessuna aggiunta. Non c'è un'aggiunta? No, non è possibile, perché sei sicuro? Aspetta che vado fuori e vedo. No, io ho visto che fuori è nero, poi dentro è grigio, com'è questa? Boh. E allora è aggiunto sicuramente. Sì, allora c'è situazione a non finire, là. Va bene, allora vediamo un po'. Sandro, ci sei? Gianni? Claudio? Via. Ah, ok. Riprendi, fa che cosa, come di pugni? Mi stavo mettendo a posto la radio, quindi è già pronta nel caso decidi di che faccio il salto. Ok, stavi dicendo, vabbè, quel cavo, ma per me quel cavo è aggiunto, ha ragione Massimiliano. Vabbè, se dentro è grigio, fuori è nero, là. Non so come sia canalizzato, però ha due colori quel cavo. Sì, ma le stavo dicendo, no, a Valerio. Tanto, un R10-58 lui, lì va benissimo. Tanto, cosa, dall'antenna dentro casa, allora c'è 10 metri di cavo neanche, capito? Quindi un 58 a lui lì va bene, non c'ha grosse potenze. Non c'ha queste calate di cavo da 20-30 metri. Per risparmiare era, capito? Ma quanti metri se ne vogliono di R10-58? Che secondo come ce l'ho io. E cosa ci vorranno? Boh, 10-15 metri massimo. Non ci sono neanche 15 metri, entrano nella finestra. Nell'antenna alla finestra saranno neanche 10 metri. Quello stavo dicendo. Un 58, aspetta telefono. Beh, 113 metri non di più. Per massimo. Sì, ma gliene puoi mettere un paio di metri in più giusto per giostrare dentro, ma dall'antenna all'ingresso alla finestra saranno 8-9 metri, 10 metri, insomma, proprio neanche, tranquillo che non ci sono neanche. Vabbè, comunque, quando decide Giuseppe ce lo fa sapere, noi prepariamo il gruppo vacanze Piemonte e stiamo arrivando. Bisogna misurare questa matassa che ho io di RG58, quanti metri sono. Ma nuovo è? Mai usato. Quello che ho comprato per metterlo nell'antenna, ma ho messo l'altro cavo, là. È nuovo, mai usato questo cavo. Allora prendiamo da te, mo quello è, e va bene. E tu già ci sono, anche lì, sono una ventina di metri buoni tuoi. E adesso bisogna misurarlo quanti metri è questo qui. Se arriviamo alla misura giusta glielo do io questo qui. E certo che sì, che problema c'è. Va bene. Ok, tutti i pariti sono, ma Gianni lì. Non è più entrato. Yes. sbasi nella divisione si avvia nella Tappignara hanno entrato un attese chi sarà Platamona mio la tua ragazza è andata a Platamona è andata lì a portare il pigiattino alla ragazza. Comunque l'ho provata l'antenna mia, la PLC 800 funziona alla grande in macchina. Perché avevi dubbi, era una bomba in macchina prima di staccare. E la cicutuna basata di carta abrasiva, lo stilo, perché era nero, era ghiaccio. E l'ho piazzata, gli ho controllato bene il corto, mi l'ho allagata, gli si arrondella, non è vicina di entrata. Aspetta, devo prendere un pezzo di carta con una penna, devo scrivere una cosa. Che penne vale? Io c'avevo la PLC 800. Ne ho una a casa, c'avevo quella io prima in macchina. Però la devo provare, alla base devo sempre provare e mi ritico sempre, vedi? Devo provare lo stilo, cioè lo stilo con tutta la carica, no? Per vedere se va bene in questa base qua di questa antenna, devo sempre provare, me ne dimentico, così posso mettere anche la PLC 800 per far andare anche in quello, capito? Però, anzi, voglio farmi dare un controllo prima con questa, con la 3001 e poi con l'altra, per vedere un po' se c'è differenza. Ma io ho provato con Gianni e usciva uguale alla 2001. Sono più forte pure la PLC 800. E abbia provato in distanza quella, eh. Vicino non va bene, in distanza. Per esempio dove sono io adesso, tu capisci? Guarda qua, provare. La prossima volta se mi ricordo la prendo. E vediamo un po', oh, meno male che il sole si è andato, mi ha ucciso, lo sai, mi ha ucciso. Ho tutto un fianco, porca miseria. Sta calando, meno male, adesso si sente anche un po' di freschetto, porca miseria. Riprendi Giuseppe, dimmi un po' il cavo, che colore è? Nero, grigio, che è? Hai ragione tu, era il cavo. Allora è giusto, così? Vediamo che si vuole mettere un po' di queste cose qua non si fanno nel caso o si cambia del tutto le giunzioni non vanno bene. Dimmi quanto i metri è lungo dall'antenna dentro casa a dove il baracchino che così io lo misuro quella matassa che c'ho io e che poi lo misuriamo vediamo un po' Natali poi già vediamo dai bisogna essere sicuri di quanti metri viene lungo. Capito, bisogna essere sicuri di quanti metri ce ne vogliono, va lì. Chiedigli alla Giuseppe a vedere, così io lo misuro questo qui. Vediamo se arriviamo a quei metri lì, perché io ne ho tagliato da qui. Ed erano 25 metri, ma penso una quindicina ci sono. Non penso che sia più di 15 metri, perché tu papà. Giuseppe, quanti metri ci daranno di cavo, dall'antenna alla lì a dentro casa? Ah, io direi 3 più 3, 6. Aggiungo 3 per esagerare. Massimo 12 metri, se aggiungiamo un paio di metri di tubo in più e 12 metri in alta lì, non di più. E allora ci dovrebbero essere, là. Già le misuro domani e poi vi faccio sapere. Questo è nuovo, mai usato, perché dovevo mettere questo il cavo io. Però ho messo il 213 perché erano troppi metri, se no disperdeva, capito? E allora ho messo il 213 io. Adesso lo misuro a vedere quant'è. Se arriviamo a una quindicina di metri ce l'abbiamo già il cavo nuovo. Vale, mica ti ho mandato lo squillo, il mio numero. 416 finale. Ah, il tuo numero? Ok, dai. Trovi in morì, così almeno. Serve sempre, se serve qualcosa. Sì, comunque grazie, ti ringrazio. Adesso ti mando il mio. Beh, se ti ho fatto lo squillo ce l'ho già il tuo, me l'ho fatto mandare da Claudio, no? Ah, mi scusa, sì. vestiti con la testa all'ombra, mica sta già iniziando a dare colpi. No, però me guarda che stavo sledando perché c'è qua siamo questi scimmi in moffo, e corri, poi ti leggo io domani dal giornale. C'è qua il stavo aspettando che arrivasse a quell'altezza lì la sole, no? mi stavo uccidendo, porca miseria, tutta la fiancata, la testa, la faccia, c'ho rosa, tutto in un fianco, dimmi tu, stavo sclerando, e vabbè, sono memorizzo. L'ha vista la foto che ho mandato. Claudio, ciao, c'è Claudio. Mi risa la cappella a risa, secondo cosa era andato. Sto facendo sempre cosa? Ah, stavo scrivendo un appunto, dove se l'hanno telefonato. Gli orecchi di porco sta facendo un'altra parte, capito? Vai, vai, stavo andando a mangiare a Filippo e finirà. Orecchi di porco, tutti trovati, no? Che mi appunta sempre a me. Mi costa 4 biscuani. Guarda la foto che ti ho mandato, se ti ricorda qualcuno. Adesso te lo dico. Il pranzo di Tirimi. Ah, bingo. Mamma mia, senza venti. Che sciocchezza. Non te la vedo. Mi ricordo il giorno dell'acqua che vorrei scenderlo. Io come sto, mamma mia. E invece, lo vedi quella foto? L'ho visto il mese scorso, seduto dove? Non mi ricordo. Bello, tranquillo, secondo me c'è anche i denti. Che io non lo so, però io mi fermo. No, secondo me c'è anche i denti. Perché mi ha sorriso e vedevo i denti, quindi sicuramente la denti era proprio meglio di prima. È bello ordinato e pulito. Vabbè, non mi sono potuto fermare perché ero in macchina, c'avevo macchina dietro, se no mi sarei fermato. Va. Non mi ricordo dove l'ho visto seduto. Ma io lo stesso, già l'ho trovato qualche altra volta ed era ordinato. Va. Sì, no. Sicuramente è servito da qualcuno alla grande. Quelle foto ce le ho tutte. Che cosa abbiamo mangiato il giorno? Santa Maria, madre nostra. Io. Ah, siamo stati bene, no? Sì, oddio. Invece di 4 chilometri. E poi lì si mangia bene, no? Sì, oddio. Ma noi l'anno scorso siamo scesi lì, là, a Macchiareddu. Mamma mia, cazzo, un furgone, 9 posti. Per carità. Siamo busto 2 ore e mezzo a arrivare. Non mi muovo più io così, Massimiliano, sono finite queste giostre così, anche perché non, sinceramente parlando, non ne vale la pena, capito? Fino a quando ci organizziamo così, quando la prima siamo andati in 7, mi sembrava 2 risate, 2 cose, mezzanotte eravamo tutti a casa e abbiamo passato una serata diversa, a prescindere che eravamo qua a Sassari, ma si può andare a Porto Torres, se si può andare a... Insomma, però dico, così lontano, no, andiamo qua, c'è che buttare anche da viaggiare nei bombi in macchina, lo sabato per andare a mangiare a Cagliari, ui. Sì, vabbè, lì si fa per stare compagnia, già lo sai, però, no, vabbè, ma lì a Pedanieta si mangia bene, claro, vicino per tutti. Bene, siamo stati, la verità, siamo stati bene, non c'è problema, adesso lo rifacciamo, vediamo un pochetto. Ok, chi c'è rimane? Chi ha detto che sta battendo però? Questo non è più l'invecchio però, vedo gli alberi, non sta entrando mai strada, poi greccare. Avanti, vale, com'è? Sta agitando il mare? No, ma calma piazza. Forse poco di vento, dove lo vediamo? Allora, il vento di terra no, perché di sottoforza è piatto, e si dovrebbe essere da... Forse maestrale. Sì, nel maestrale lì non tocca l'alghero. e lì non tocca, sicuramente. Vabbè, avanti Natalino. Aspetta, non tocca se che sto misurando il cavo. Non tocca se. Ma e poi alla fine l'antenna Giuseppe se la vuole comprare, cosa vuole fare? Adesso dici Giuseppe. Sì, sì, io sto pensando, tu vedi lo scoglio all'interno? No, non ho capito cosa. Dove sei? Lo vedi lo scoglio dell'interno? Scoglio dell'interno, io sono, diciamo, allora, posizionato, allora, io vedo un porto ponte. Ponte Giglia ce l'ho sulla destra, davanti a me c'è l'hotel Capocaccia, Dragunara, vedo Dragunara e tutto porto ponte. No, c'è il mare fuori. No, no, è mosso, sotto sosta è calmo e si può specchiare. Il che dovrebbe essere opponente, ma neanche centrale. No, no, no, non è mestrale, è deponente. No, guarda, se tu vai a vedere il fatto, ma io guarda che vai nel nostro. Cosa ferma il vento? Ho capito. Certo, è stato sempre un fondo per noi tutti. Lo abbiamo tenuto per la caratteristica di vento. Sì. Vedete, ad esempio, guardando qua a Montagiglio, lì non è piatto, perché ci sono frange poco. Invece guardando verso qua l'hotel, come si chiama, Dragunara, e qui è pianto di brutto. Esatto. Le note per la portata e quasi no, quasi. No, la portata ce l'ho di spalle proprio. Esatto, no, Sì. Scherzo, ora tu fermi. Adesso inizia a muoversi un po' le cespugli, l'erba qui. Sì. E dovrebbe essere un maestrale, forse più maestrale. Tra maestro e tramontana. Tramontana non lo so, non penso sia tramontana. Sempre tramontana. Beh, comunque si stiamo facendo una tragedia. Non va bene così, ho sentito un pipicchio. Vale. Ma chi c'è Gianni sotto fondo? Valerio. Dimmi Natalia. Allora sono 11 bracciate e un pezzo, saranno 12 metri. E di più anche, di più. E vabbè, facciamo 12 metri all'ingrosso, va. Già c'è, da, ce l'abbiamo già il cavo. Già va bene, dai, già ce l'abbiamo. Tanto te lo paghiamo ugualmente. Adesso manca. Ma vai, cosa paghi? Sì, ma non è più. Insomma, l'antenna, i due PL, poi un paio di braccia, la scala già ce l'abbiamo, e già siamo a buon punto. I due PL glieli do io, che ce li ho, adesso uno glielo saldo qui, proprio per attaccare l'antenna, e l'altro se lo salda dopo. Fammi un bel lavoro col PL, mi raccomando, perché io sono molto pignolo con i PL, guai. Vabbè, là, due PL ce li ho in macchinette, uno glielo saldo, così lo possiamo attaccare direttamente all'antenna, insomma, ci manca l'antenna solo per poterla mettere. Oh, ma Claudio, lì al PL dell'antenna, cosa ti ha messo? Un pacco di grasso? A me? Ehi! Vai, che non ne ho messo grasso, che l'ho vulcanizzato e bu. No, perché lui è speciale, Claudio. No, perché lui nelle sue antenne c'ha solo grasso, nel piede, solo grasso. Il vulcanizzato e non serve. Anch'io ce l'ho così, col grasso. Ah, tu hai preso da cosa, da Claudio? Sì, perché ho lottato da cosa, Valì. Io prima l'avevo messa così, vulcanizzato. Poi ho tolto quel cavo, ho messo l'HP1000. Quando sono andato a toglierlo, c'era molto ossido dentro il PL, capito? Ho rimesso il 213, quello doppia calza, l'HP1000 non l'ho tolto, e ho messo il grasso e ho visto che è perfetto. Bueno, guarda, io non ho mai trovato problemi, mai, perché io poi vulcanizzato l'uso da un'eternità, no? E ho usato sempre vulcanizzanti, non ho mai trovato PL, PL diciamo ossidati o cosa, mai, mai, mai, io ho sempre usato mai grasso, grasso è un casino, mamma mia. Non è che devi mettere mezzo chilo di grasso, una volta che ti copre il PL, basta. Vabbè, ma questo grasso poi non è che col caldo se ne scende. No, non se ne scende il grasso. Che grasso? Grasso, chi è grasso? Rimane bello compatto allora, no? Beh, se usi grasso buono, ci vuole il grasso buono, quello un po' duretto, anche se scalda col sole il grasso non si scioglie, capito è? No, io ho notato questa differenza, dal vulcanizzante fa un po' di condensa, devo essere sincero, invece col grasso non c'è problema. Tutto qua, momentaneamente io, stazionarie, sono zero sotto zero. Bravo Mancinino, bravo, infatti anch'io ho tutti i PL col grasso, e me l'hanno detto gente esperta che fa questi lavori. Io il vulcanizzante non li uso con i PL, perché si riempie di acqua, che ne dicano, capito? La condensa c'è e quindi poi succedono i problemi. Invece col grasso nessuna condensa, io uso quel grasso duro di cuscinetti, lo metto bello, ce l'ho, mi sono salito da poco ed è secco il grasso, capito? Vabbè. Non ho mai provato col grasso, solo vulcanizzante, mi sono sempre trovato bene, mai trovato umidità o ossido, mai. No, nel PL no, vabbè, vulcanizzare le giunture dell'antenna vabbè, ma io nel PL, io ho il commutatore elettronico sopra, non ce li ho vulcanizzati i PL, sono 4 attacchi, comunque 5 perché poi cercavo 4 spezzoni delle antenne che vanno al commutatore su, elettronico, e poi quello centrale che scende, unico che scende, e siamo tutti riempiti di grasso, capite? Non c'è un vulcanizzante lì. Vabbè, l'importante è che vado bene, c'è da partire dall'acqua, per me va bene, dai, che va bene anche. Giuseppe, sei? Stavo ancora misurando. No, io ti dico quello che ho fatto io. Dopo la stessa, che è il problema? Hai sovravoto la totale volte. Dato. Ehi, già lo vedo. E tutto, volata, c'era l'acqua. Hai rotto le palle. Sei stato un po' disturbato, dimmi cosa è successo Giuseppe, ti racconta. Allora, non so cosa facevano i vecchi quando montavano le antenne, ti parlo di radiomatori che adesso non ci sono più, quando erano CB che montavano le antenne, l'imbuto, un imbuto di plastica tagliato e messo a cappellotto sopra dove c'era il PL e boom. Esatto. Sì, ma Giuseppe stai dicendo di riempirlo di grasso, di cera, no? E poi te lo mangiamo. Io ti parlo di un bicchiere di plastica robusta. No, e vabbè, cosa serve? Un imbuto di plastica è meglio. Non si fanno più quelle cose lì. Si facevano nelle Grand Play, capito? Ma queste antenne di adesso sono... Non prometterci niente, perché ci sono le spirali della cordatura, ci sono le sacche di stronzate. Io non metto niente, non ho mai avuto stazionarie, acqua non mi ha mai creato di problemi. Così nella verticale, così nelle direttive, sono tutte piene di grasso, i connettori, gli occhielli, PL, che PL non ce n'è perché io ho i cavi diretti a occhiello, quindi non ce n'è PL nella direttiva. Però il grasso, solo grasso. chiamo da loro. Intanto è già tutto pronto. Capito, non c'è problema. Noi diretto così come te vedo io. Ah, stavo dicendo, ma l'antenna di Natalino, come si regola stazionare? Dall'ultimo elemento dell'antenna? Esce dallo stub centrale, ultimo stub centrale che è un elemento fine, è innesto 76 cm. Ah, ecco, sì. Anche un'altra antenna che si regola così e c'ha lo stesso sprayer radiale, non è della Midland, è della... Energy. La Energy, sì, la stessa cosa, quasi sono uguali. La stessa antenna, precisa elettrica. Solamente che la Energy costa di meno, io l'avevo presa 4 anni fa per Franco, l'avevo pagata intorno ai 60 euro. Bravissimo, costa di meno. Sì, la regolazione è proprio da lì, dall'ultimo elemento. Perfetto. Quella misura lì c'hai che sotto 80 canali zero. Sì, così è. Sì. Potevamo fare tutte così, così antenna, anche la mano, ma invece non sta a regolare con la scatola, bobinone, non serve a niente. Ma tu questa antenna Energy ce l'hai? No, io non ce l'ho. Ah, pensavo ce l'avessi, no? La Energy Massimiliano è uguale a quella che c'è a Natalino. Precisa identica, tra, solo che una si chiama Energy e l'altra si chiama Midland. Sono la stessa antenna, precisa identica. Non sa, perfetto, boh. Magari costa lo doppio, così è. Bravissimo. Ci sciude. Un'antenna così semplice, bella, semplice. Non ho capito, ma te la facciamo a casa solo, no? Margazza, è Midland, te la fanno pagare di più. E la mia pure si chiama Energy. Ehi, è fatta dalla Midland, no? La tua, così è. Sì. Appunto, la Midland, le antenne te le fa pagare il doppio, no, il doppio no, però molto di più. Il doppio, tranquillo. Sì, Energy Natali, quella che non è marcata Midland, mi sembra l'ha presa il genio, l'ha pagata 45 euro. Cosa no? Troppo è costato 80. Ehi, vabbè, andare. C'era Daniele Motriceppata, l'ha pagata 51 euro. Vabbè, magari c'è qualche differenza, non lo so, di come è fatta. Io ho visto quella lì, abbastanza semplice. Ehi, vabbè, già va bene, 40, 50, 60 euro. Già va bene, l'importante è che sia una buona antenna e che vada bene. Va, se eravamo organizzati bene, gli altri due elementi di paro, di quelli che dico io, vedete cosa ci va lì. È venuto un bel lavoro, ma eravamo saliti almeno 3 metri, 4 metri fuori dal torrino, che lui c'è un torrino, lì capito che c'è un appartamento sopra di lui. Avresti visto cosa era uscito? Già l'ho visto via satellite, c'è quella farina proprio a fianco, che palle che... Quello lì dovevamo superare, no? Però purtroppo troppo pesante, troppo. Se allungavamo ancora il palo, penso non ce la facevamo più a tirare su. Pesantissime condizioni, pessime, perché stavi lavorando dalla finestra. Se potevo salire sopra il tetto, guai. Allora bene mio. E guai, mettevamo l'antenna attaccata col torrino, no? No, dove adesso la mettevo? Senza rompere le scatole a nessuno. Però una volta che a me mi arrivava il palo, no? L'antenna, col telescopico basso, da sopra potevo tirarlo sul telescopico, invece abbiamo dovuto regolare tutto laggiù. No, lavoraccio, no, la madonna. Senti anche troppo. Guarda, io sono andato stamattina a Natalino a portare della roba e ti dico che sulla guardia ti dico che abbiamo fatto montare con la testa. È dritta, mi ha calcolato tutto, il palo è dritto, perfetto, ma la fatica che abbiamo fatto a montarlo nelle staffe è una cosa allucinante, tutto con la corda abbiamo fatto. Perché l'avete tirato su così? Chi c'è il sotto? sono di finestra, così, se ci fosse stato il terrazzino, guarda, sia al piano dove c'è Natalino, sia al piano di sopra, sarebbe stato un bijou. Il problema è lavorare di fianco da te, dalle finestre. Massimiliano era giù sotto con la scala che spingeva, loro che tiravano, io che centravo le staffe, un lavoraccio a luce. Però ti posso dire che guardandolo ti accorgi che è proprio perfetto, dritto dritto. Peccato che ci sono mancati quei 3-4 metri in più per sollevarci ancora, se no era un lavoro eccezionale, capito? Che cavolo, mi ha avanzato tantissimo. Mi ha un'altra calata Natalino, figurati, ne ha comprato 40 metri, ce ne sono serviti 20 neanche. Va bene, avanti Massimiliano. Beh, visto che abbiamo montato quell'antenna, adesso problemi montare altri tipi di antenna, non ce ne sono. No, a lavorare in facciata siamo dei ragni, anche a Cesare ci portiamo. Sì, mettiamo anche a lui. Poi io lavorare in piedi dalle finestre sono ideale, sono leggero, capito? Mamma mia, quello è stato il tocco finale. Figurati che per attaccare, mettere l'occhiello, vale per attaccare i tiranti, perché ci sono anche due tiranti che mantengono praticamente l'antenna spinta verso il muro, no? Per non flettere. Massimiliano si è dovuto dalla finestra a occhiellare fuori e io a mantenerlo per il fondo del pantalone qua, non te ne dico. Se ce l'ho presente, sì, come avete fatto, è pericoloso. E adesso è fatto, va. Adesso oramai lo possiamo solo raccontare, capito? Comunque è fatta, perché l'impegno era quello di montare l'antenna Natalina. Gli impegni bisogna mantenerli, capito? Non essere io qui, io là, io faccio, io disco. E poi si tirano indietro perché vedono un ostacolo. Gli ostacoli bisogna cercare di eliminarli, capito? Il problema sarà se non deve scendere a tirarla giù. Sarà un altro problema, dice. Secondo me è più facile, Massimiliano. Secondo me è più facile. È più facile perché basta legarla, ok, sempre da Cesare, legarla, tenerla in tira, no? E si sfida dal piantone di sotto e si fa scendere piano piano. Secondo me è più facile a scendere che a salirla. Ma se la devi salire su, Ocla, è un casino. Perché su, dopo, quando tu sali oltre quel tettuccio che c'è sopra quel terrazzo, quei 4 metri rimangono in bando, lì vuole per forza ancorata. Infatti io cosa ti ho detto poco fa, che il bello sarebbe stato tirarla su di 4 metri ancora, però metterli due tiranti alla fine, non bisogna metterli dal terrazzo, cioè bisogna salire sul terrazzo di quella signora, che sarà molto difficile che ci possa consentire una cosa del genere. E infatti, Natali. Che sta saltando il PLA Giuseppe. Ah, vedi, già pronto, io di ordinare l'antenna, Falì. Siamo pronti qua, qui non ci vuole niente, qui ordiniamo e siamo pronti. Allora organizzatevi. Io la domenica mattina, vediamo, gliela piazziamo. Io dico a Giuseppe, Falì, ordinagliela tu. Anche se non hai della Midland, non hai Energy 5 ottavi, 3 radiali. Adesso io gli indirizzi è che non so. Dirà tutto Natalino. Natalino manda tutto a me dove l'ha comprata, io ti giro le mail, capito, su WhatsApp e siamo a posto. Ok, dai. Giuseppe, tu già sei pronto, sì. E che problemi va, Giuseppe? Basta che va a preleva lui, che problemi c'è? Guarda, se la ordinate domani, vale, venerdì arriva. Sì, ho fatto anche le foto, Giuseppe, non ti preoccupare che quello è un gioco per noi, capito? Non dobbiamo attaccare niente, forse l'unica cosa che devo attaccare è le fascette del miscilatore. Ok, e poi le riattacco, basta. Quando si appoggia l'antenna, prima di appoggiarsi l'antenna sul tetto, stai tranquillo che io ci arrivo a attaccare la Grand Play e inserire gli altri cavallotti. Tranquillo che ci arrivo. Certo, è a portata di tutto. Bravissimo, bravissimo. Quindi è una grandissima fesseria, perché porta la scala, dal poggiolo si sale sul cornicione, si cambia e si scende, boom, capo nuovo, fascette nuove, tu stai andando. Un paio d'ore e tu sei a posto. Se la ordinate domani, venerdì, è qua. Anzi, giovedì mattina. fa il cuoco, io e Massimiliano a Natalino che ci arrangiamo. E allora sì che abbiamo mangiato. Ecco, gli ho portato un paio di salsiccione e di bistecche lì fuori nel giardino. Ho visto qualcosa che si mette la braccia. Oh, io come sto? Oh, ci passano anche i cani. Ok, noi mangiamo e le ossa le diamo ai cani, vero Giuseppe? Cazzo Giuseppe, ogni volta ne cade dalla sedia, stai fermo. Cazzo, non si attacca la bocca a questo microfono. Attaccati il microfono alla bocca, cosa hai detto? Dei cani bisogna lasciare in tanta parte perché se vabbè, vuol dire ci mangiamo anche il cane. Sì, all'anima di fame. Dopo la voce viene fame, Bevi. Roger, ho visto quella bottiglia della vodka dentro l'armadio, mettila in frigo. No, di quelle sono diverse. Mettila in frigo quella... alla, quella aromatizzata, che le do una succia, il giorno vengo lì, anche l'antenna faccio storta. Puro. Ma che, o Massimiliano mi, a che c'è calda? Ehi, dei matti pure. Non siamo bevitori noi, no. Giuseppe, non ti preoccupare. Però dai, ci organizziamo, a Natalino c'è già il cavo, quindi il cavo c'era già pronto. Mettiti d'accordo con Valerio, ti passo le coordinate e la ordini tu, così arriva direttamente lì ad Alghero. Sì, tu fatemi le coordinate, io vado qui e ci metto io. Natali, quando hai due secondi su WhatsApp, mandami le coordinate dove hai ordinato l'antenna. Dalla IL elettronica l'ho presa io. L'ho presa dalla IL elettronica l'antenna. E non c'è problema. Ecco. Oh, cosa ti volevo dire? Ah, il PL nel cavo è già piazzato. E più ne ho un altro. Se, bisogna sapere se lui c'è saldatore se, o se dobbiamo portarlo noi. Ma no, il capo mi deve passare dentro il buco, mi cosa salda il PL? Uno solo salda il PL, l'altro no. Cazzo, non saremmo compresi, uno solo l'ha già sagliato. Bravo, bravo. Poi Giuseppe non riesce a farlo passare dentro il buco alla finestra, capito? Allora mi dice, Natalino ha già tutto pronto, io vedo che a Valerio ordiniamo questa antenna e non se ne parla più. Ma il buco non si può fare. Lubucu, Lubucu. Lu Ciampa, di Ciampa. Allora, Sampa Manna, Giuseppe, la Sampa Manna. Dai, mettiti d'accordo con Valerio, Giuseppe. Vale, IL elettronica, guarda su internet, IL elettronica, ok? E ordini una Midland 5 ottavi, Energy 5 ottavi. Quindi già la conosco IL elettronica. Ecco, allora, se conosci tutto, fate l'ok da Giuseppe. E poi siamo pronti, gruppo vacanze Piemonte si parte, ci sarete ricura di San Gran Prix Giuseppe, teniamo solo quel piantone che c'è, quello che è saldato e basta, il resto lo metto nuovo col tubo telescopico, bello, ci risaliamo almeno 2 metri più su delle antenne TV e così è risolto il problema. 70 euro costa, eh? Quanto? 70, 70 euro. Non ti preoccupare, ti ho detto io non lo tocco con l'esistente, ancora non mi hai capito, io con l'esistente non lo tocco, porto un telescopico dei miei, lo entro dentro e lo avvito, hai capito? 2 telescopici che entrano dentro quello, ok, come abbiamo fatto a Natalino, non ti preoccupare. Va bene, vediamo l'attacco, vai. Tu fai attaccare a me che già so io come attaccarmi, non ti preoccupare tu. Io rimango su quel piantone che c'è, che è favoloso, lì ce ne metto un altro che entra lì dentro e un altro ancora telescopico in modo che salgo almeno di 4 metri, ok? 2 più 2, le antenne vanno attaccate nuove, le antenne che hai tu vanno attaccate al piantone nuovo e rimangono almeno 2 metri e mezzo, 3 metri dall'antenna e così non disturbi più. Oh, Ci vedrà, ci vedrà. Il cavo è pronto per essere piazzato. Glielo regalo io a Giuseppe il cavo. Guarda Natalino, mi hai sentito Natalino quello che ti ha detto? Giuseppe, ma perché non ti leghi alla sedia? Poi lui, guarda, tu lo chiami, no? Puoi parli tu e puoi parlare lui anche sopra. Vale, guarda, ti ho mandato l'indirizzo dove prendere l'antenna, se vuole. Io ho ricevuto, ti ho tutto controllato. Vabbè, no, io l'elettronica mi sa che ho già preso altre roba, devo essere anche registrato, va bene, mi ricordo. Io va bene, domani faccio l'ordine. C'è anche il numero di telefono, ti conviene telefonare, Vali, che fai prima, l'ho fatto io. E tu a me non mi conosci a me, come faccio gli ordini, non sai come faccio gli ordini, io prima telefono, o faccio l'ordine direttamente, o se loro vogliono pagare con la posta IP, capito? Prima chiamo sempre, per sapere la disponibilità, se ce l'hanno l'antenna o meno, capito? E poi faccio il resto, però prima prima c'è la chiamata col telefono, altrimenti niente. Così, allora la prossima settimana mettiamo l'antenna, e non questa, la prossima. E ci vediamo, vai. Tu mettiti d'accordo con lui, quando lui vuole ordinarla ti dà l'ok, la ordini, appena hai tutto il materiale, intanto Natalino le porta al cavo. Capito? Non c'è bisogno di prendere piede, non c'è bisogno di prendere niente, è già. Prendo io qua a Sassari, uno ce l'ha già, Natalino l'ha già attaccato. Capito? Rosmetro buono, ce l'ha Massimiliano e anche Natalino. Io ce l'ho ma non lo posso staccare perché è attaccato l'amplificatore. Però lasciamo a posto. Tutto ok, gruppo vacanze del Piemonte. A Valeria di se c'è un saldatore per saldare l'altro, il piede, se non porto il mio, il saldatore. Ah, c'era Giuseppe saldatore, sì. Ehi, ce ne manca saldatore a lui. Va bene. I PL ci sono già, uno è attaccato a casa, uno glielo porto io per attaccarlo a casa, in bacchelita. Bene, Meda, Giuse, meglio di così, mi, cosa vuoi? Gra, tu. Ma cosa vuoi, un saldatore? Infatti mi stava chiedendo a me se ci avevi il saldatore, ho detto che già ce l'hai, il cavo te lo regala lui, hai capito? Quindi tu hai comprato solo l'antenna e buh. Chissà dove sta giornata. Se piede vogliono lui. Ma dove è dunque questa giornata, Giuseppe? Ma sempre in ferrovia di Grevi. Una giornata particolare, ho capito dove, poi me lo spiegherai, dai, così passo parola, va bene, perché noi non temiamo i temperi e non temiamo niente, non abbiamo problemi, a me, a Massimiliano, a Natalino il vento non ci sposta, è tranquillo che non ci sposta. Grazie. Ho capito, vabbè, qua non c'è la signora che fa le pulizie, dimmi Massimiliano. Se me la porti giù io sto partendo adesso da casa, sto venendo con Gaia a ritirarla. Va bene, amico mio, è tutto pronto. Ok? Guarda che la devi mettere nel cofano in piano. Non lo sa, vuol prendere a destra e a sinistra, ok? Dai. Quando sei giù me lo puoi fare uno squillo, così non ti aspetto. Quando sto arrivando ti mando un messaggio come abbiamo fatto ieri, va? Tagliamente vi saluto a tutti. Okay. Già siamo qua. Ciao Massimiliano, va bene, va bene. Sì, va bene, ciao Massimiliano. No, non è possibile, no? Frata Pignara, non è possibile. Non è possibile. Eia, buonasera a tutti. Ma non riesco a bloccare il microfono. Va, Napoli. Buonasera a tutti, dai. Buongiorno. Eia. Ho mangiato poco fa, per cui non sono entrato per quello. Mi raccomando, Claudio e Giuseppe, oltre che l'antenna buona, mettetegli un amplificato che sia molto amplificato. Di che genere? Un microfono molto amplificato. Qualsiasi genere, basta che sia limpido e amplificato. E io non avevo più qua dove prenderò più avanti, adesso dobbiamo montare l'antenna. Poi si vedrà. perché sai, no, che se ha segnale ma non ha radio è inutile. Cosa vuoi che senta? Cosa vuoi che sentia? Cosa vuoi che noi... No, niente, no. Aspetta, no, sto guardando. No, niente, no. Claudio, stasera stavo ricevendo le HF e c'era un radioattore dell'Asinara, lo sai? Una spedizione ed era in un punto con un nome particolare. Io so tutto, non so niente. Sì. Quello è Antonio Littini, mi ha dato anche la frequenza. Il nominativo è il nominativo speciale, ricordi, quando ci sono le spedizioni ci sono nominativi speciali della sezione, quella della sezione aria di Porto Torres, IQ0. Eia, come si chiamava? Punta Sconforto, un nome strano aveva a quel punto, capito? Dove erano lo... Guarda, adesso te lo dico perché c'è anche il collega che c'è un messaggio, adesso ti dico come si chiama, eccolo qua, Antonio Mittili, team di ex coro spedizione Asinara Island, punta Comunica, punta Scomunica. Ah, quello, sì, Scomunica. Caspita, bella presagio, mi. Arrivava a 9 qui a casa, con l'857, Santiago 9. Sempre di fronte, quella punta lì è praticamente prima del faro di Punta Scorno, quindi a lì a cosa, come si chiama? Caraloliva, capito? Io la Sena la conosco tutta perché ci ho lavorato per 2 anni, andavo tutti i martedì e i venerdì a cambiare il filtri guard al dissalatore della Reale, quindi la conosco tutta. Pittina, se c'eri stato stamattina, Marco, ho provato la 98SF, ho provato, mi ha sparato un centinaio di colpi con la mia, e però dopo il bussolino ho trovato pochi a Chiranduti 9 Parabellum, sono andato ai Paragumi tranquilli, grazie a Vignano e Bobbu, a Ciappari miei, per voluto Gesù Cristo. Eia, per Claudio, sì, comunque, conta che arrivava 9, però io ho la 5 ottavi, non ho un'antenna amatoriale taratta, quindi era Santiago 9. Bene, vai Natalì. Quindi sei andato al poligono, così è? Ehi, sono andato al campo stamattina, ho provato anche la PLC 800, è una bomba. Funziona benissimo. Eh beh, già ti credo. Ascolta, cosa volevo dire? Porca miseria. Non lo so cosa volevi dire. Ah, il disturbo elettrico. E gli ho messo 2 toroidi, gli ho messo, sembra che sia molto attenuato, gli ho abbassato un po' di tensione e sono a 12 volt adesso. Ah, attenuato è. Vabbè, buono, perché 9-10 era proprio troppo forte, cioè roba da non modulare, da non riuscire a modulare. Infatti, te l'ho detto, uno l'ho messo all'antenna, il toroide al cavo dell'antenna vicino al baracchino e l'altro all'alimentazione. Eia. Dai, fate girare. Vai, Valerio. Ok, tanto Marco. Ciao Marco, ben entrato, ben svegliato. Ah, risolta la questione del coso, il toroidi, assolutamente sì. Ma che tra l'altro, il coso, Giulio? No, negativo, un amico me li ha dati. Ah, ecco. Hai risolto qualcosa, cosa c'è di quel rem adesso? Adesso poco, ma mi arrivava il rumore a 9-10 a me, quelli piccoli non li avrei potuti sentire, capita la cosa del discorso, era troppo rumoroso. Complimenti a babbo. No, così, cioè 9-10, no, la madonna. Sì, a me qualche volta un po' di QRM, no QRM, queste cariche elettriche, non si sa, io prima quando ho messo l'antenna non avevo adesso un calzino. Non è sempre però, non è tutti i giorni, qualche volta, però ci sono... Ciao Giù. Se che arriva Santiago 3, 4, ciao. Oppure Santiago 7, sempre questo. E poi diminuisce, sparisce. Però durante la giornata non ne ho. Iniziano dalle 17 in poi. Dalle ore 17 in poi. E a me ce l'avevo fisso a colpi, andava a metà, a punta di 9:10, che a te non ti avrei potuto sentire, guarda. Ah, garantito, certo, non mi avresti sentito. Io non so da che cosa potrebbe dipendere. Il condizionatore no, perché io quando avevo messo l'antenna, i condizionatori c'erano già, non so che condizionatori, io non so cosa potrebbe essere, può darsi la posta, che abbia qualcosa, non so. Comunque ti va bene così, quando posso bene, altrimenti rimango nascosto, ti va bene così. Sì. Giuseppe, avanti a te. Io sto pensando che sia qualche macchina per elettromedicale mi qua vicino e magari mi faccia questo disturbo qua. Se sia la macchina, ma tu che negozi c'hai vicino o l'altra lì? Non ne ho negozi vicino, qualche macchina perché qualcuno si sta curando con qualche macchina elettromedicale mi sto pensando. Che dia disturbi quello lì, ci sarà qualcuno che sta facendo qualche terapia, non lo so. Non se ne capisce niente. Comunque prima di questa roba qui non ce n'era, non c'erano tutti questi disturbi elettrici, non ce n'era, adesso è un casino. Ma sbaglio, ho sentito la voce di coso, come si dice, di Giulio. Sì, ciao a tutti. Sì, ma c'è gente qui a casa e non sto solo ascoltando, ma non posso trasmettere. Ciao Claudio, Natalino, Marco e Valerio, saluto a tutti. Allora funziona il telluride come ti avevo detto, Natalino? Sì, gli ho passato anche la cosa, l'alimentazione, un attimo che mi stanno suonando il campanello. Vabbè, fatto l'alimentazione non c'entra niente. Vabbè, interessante che hai risolto. Allora, ciao, ci sentiamo. Tu puoi diventare proprio sempre a Fusellini. Ciao. Ciao a tutti, riprendi. Sì, glielo porto io stamattina, mi ero attirato l'elettricista, lui ha capito, glielo portato stamattina. Se sentite rumore c'è il fumo acceso, ok. Qui gli hanno bussato la porta a me. Adesso è quella che si lamenta da TV. Mamma mia, c'è bindaccio. Le porte, tanto. Ciao Giulio, è ben sentito. Ciao Giulio, Forza Juve, tanto non Milan, appresso, l'Inter del Frate Rivasi, manca un'Europa League entra. Ciao Giulio. Ciao a tutti, ciao Valerio, ciao Claudio, ciao Marco. Sì, perché no? Ormai l'Inter è fatta furia, nemmeno nella Liga può entrare, assolutamente non ce la fa. Infatti l'Inter è fuori anche dall'Europa League, possiamo entrarci almeno quest'anno in Europa League. Il Milan si è fatto curire dall'Empoli, allucinante, c'è sulle vergogne. E perché il Napoli ha perso un'occasione buona, guarda. E il Napoli ha perso lo Sassuolo, così è. No, ha pareggiato 2-2. Io stavo perdendo e mi sono allontanato. Vabbè, un pareggio, sai. A Reggio Emilia è sempre un buon risultato, il Sassuolo in casa è molto forte. Però lo Milan in casa 2-1 dall'ultima classifica, c'è solo che vergogna. Io rimango in Corrix, è arrivata gente, ci sentiamo più tardi a lì. Ehi Anthony, intanto io sto aspettando a Massimiliano, volevo scendere questa roba. Appena mi arriva il messaggio mi stacco anch'io, avanti Valì. Va bene. Ciao Giulio, buon Corrix allora, Buon Corrix anche a coso. Natalino, io mi sa che tra un po' mi avvio, che so, sì, mi avvio adesso, dai, piano. Già va bene. Riprendi Giuseppe. Ok, dai, vi saluto di nuovo, ciao a tutti. Io non riprendo più, dai, c'è gente a casa, ciao. Ciao Giulio, ciao, alla prossima. Non so Giuseppe, come vuoi? Gli aspetta, piano. C'hai il soldi dell'antenna, ti vuole fare? Cosa? Ha detto scendi così e già i soldi dell'antenna li vuoi dare Giuseppe? Ah, aspetta! Ah, lui ci ha abituato all'alta quota, 7 lì a, a portare a mangiare i grifoni. Vedrai che un giorno io ci vado lassù, già ci vado, non so quest'anno se ci vado, quest'anno. Un po' faticoso per me, vabbè, vediamo un po'. Bella è quella zona, su Alfaro stai dicendo, io ci sono stato, ci sono stato quando ero lì ad Alghero, capito? Ci sono stato, c'era un amico lì, Giovanni, lì a Tramalidio, mi ha portato lui su Alfaro, che bello che... E io sono stato, non Alfaro, ma la stazione qui è meteorologica, no? Che è stazione... militare, sono stato con mio cognato lì, bellissimo, molto bello, stupendo, tutto sullo, sullo strapiombo. No, vorrei andare alla, all'Arca di Noè, no? L'Arca di Noè, poi si entra in macchina fino a un bel pezzo e poi si va a piedi, e si va a piedi e lì ci sono delle belle zone da, da vedere, da vedere e fare soprattutto fotografie, e a me piace molto. È un bel posto, è un bel posto. L'altro che ho visto è ero andato su a Montedoglio, proprio sopra la Pavaliera. Ho visto, ero andato una domenica mattina con Pomerangelo Bliffo, te lo ricordi Angelo. Siamo andati a trovare a Domenico Cristo, ma cosa si vede da lì sopra? Mamma mia! Cosa Giuseppe? Tutto si vede Giuseppe, si vede Sassari, è una cosa spettacolare, bellissimo, bellissimo, tutto il mare, veramente allucinante quella zona, mamma mia che bella, bella? L'ho sentito questo nome ma no, non l'ho mai visto, mamma mia, e anche Capocaccia è alto, al faro, c'è cioè quello strapiombo affacciato al faro, mamma mia quanto è alto. Perché da lì poi il mare è aperto, perché fare il Capocaccia praticamente è il punto di riferimento per l'ingresso di Alghero. Ma alto, vale, mamma mia quanto è alto lì. Bello, bello, bello, tutta questa zona qui è stupenda, stupenda, io devo riuscirci ad andare lì a Coso, a Torre Pegna, che c'è uno strapiombo che fa paura, e poi Punta Cristallo, che è quello ancora più alto, Punta Cristallo è qualcosa di stupendo. A Torre Pegna l'abbiamo visto da dietro, dalle grotte di Nettuno si vede. Sì, ma si vede anche dalla strada, da qui, adesso io sto scendendo, e dovrebbe essere, eccola là, la torre, Torre Pegna. C'è Torre Pegna e dopo, subito dopo c'è Punta Cristallo, sono due strapiombi che fanno veramente paura, fanno veramente paura. Io ho visto gente che ha fatto le fotografie da lì, guarda, una cosa stupenda, verso, diciamo, le fotografie verso Capocaccia, oppure le foto fatte verso Calaviola, Portoferro, ti dico, uno spettacolo, veramente belle. Sì, la conosco quella zona, ci andavo spesso lì, ero sempre lì da Tramalidio, Capocaccia, quelle zone lì. Sì, quella torre Nuraghe che c'è, e lì è il Covo dei Grifoni. Sì, tutta quella zona lì, e fa, diciamo, dalla Torre Pegna fino a Porto Cristallo, lì è tutta zona di Grifoni, sì. Può darsi che si veda, no? Il giorno che andrò può darsi, non si sa, perché non è che si vedano spesso, ecco, non si vedono spesso. Sono anche l'intenzione, pensa un po'. Ehi, no, bella zona, conosco tutta lì. Ci portavo spesso, mamma mia, capito. Va bene, datemi 10 minuti che io vado, che c'è Massimiliano giù, eh. Marco, sto arrivando subito. Ehi, fai pure, dai un bacio da parte mia. Sarà fatto. Guarda, sono fuori allenamento, perché c'è molto da camminare. C'è moltissimo da camminare, perché non ci sono stradine, capito? Bisogna camminare in mezzo alla boscaglia, ecco, in mezzo alla boscaglia. E non lo so, io penso... Thank you. qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Tutti? Diglielo che è qualcuomane. Cazzo. cazzo che rumore che fa, maledetto, è un disturbo del cacchio, boh. Ah, è forte? Eia, anda coi pianda, cazzo, pure a 9 mesi non arrivi, lo segnali. Questo compito, se metti il mio baracchio, non te lo fa, ma ti gioco tutto quello che vuoi, non lo fa. Cosa stavi dicendo? Ho detto, mi scommetto tutto quello che vuoi, se porto il mio baracchio non te lo fa quel problema. Perché? Chi non invita a guardare lo baracchino mio. Ehi, calpitina. Non è rubato di QRM, è un disturbo proprio, non è QRM normale. Mi. E tu usa lo squerci. Ma quando arriva a 9:10 che squerci vuoi usare? Sì, io lo so. Che i piccoli poi non li senti. Sì. Allora è un casino da lì. Vai, cuocomane! No, mi cuocomane è arrivato, mi. Mille il cuocomane, mi. A chi? Ehi, stavo guardando Bonolis in televisione, dai, visto che prima si sono assentati tutti, ne ho approfittato, ciao, oh Luca. E gli altri non hanno più ripreso, no? Cosa, Marco? Ho detto non c'è più nessun altro, no? No, eravamo io e Luca qua, non so se c'è Pomponio che ho sentito ciucucù poco fa. C'ho sempre quel disturbo, maledetto. Ma nonostante il toroide è uguale di segnale. Ma lo senti, ciucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Uno anche nel cavo dell'antenna ne ho messo, di quelli che si aprono. Eia, ma se prima era 9 più 10 il disturbo, adesso quant'è? A colpi va, a 9 e 10, a 9 mi è arrivato. Stamattina era più basso. Però il problema persiste. 9 è un be. È come quando Pomponi aveva il Kenwood e i cavi dell'alta tensione vicino a lui lo disturbavano, c'aveva il quaderno a 9, dove stava impazzendo. Ehi, con i piccoli non ci puoi parlare praticamente. Ehi, tu ignora i piccoli, visto che sono piccoli, parla con noi. Guarda, qualche giorno vieni qua, te lo posso dire, chi anda a colpi, anda prima piano, boom, boom, boom, e poi sale di colpo, boom. Guarda, c'è da chiamare davvero Capitano Mentosa. Vabbè, dai, mi guardo il telegiornale, ciao. Ah, mi seduci e poi mi abbandoni. E tanto non c'è più nessun altro, dai. Mi guardo il telegiornale, anche se vedo che alla fine non succede niente. Per fortuna, dico anche, tra Corea e Stati Uniti. Quello non fa che minacciare, dice, cancelleremo gli Stati Uniti, poveraccio, il coreano è convinto di cancellare tutti gli Stati Uniti. Non ho capito che gli arriva addosso tutta Europa, tutta l'America, che cazzo fanno sparire quel paese puzzinoso. Qua già delle portaerei lo può annientare, allora devo dire annientare con quei tomahawk, andiamo in Tiruvani, che la mela. Guarda, se vuoi fare più danno possibile, rilanci un tomahawk nucleare sulle basi missilistiche, li fa scoppiare tutti i missili nucleari dentro casa. E infatti, non è quello, là niente, ma più. Già dalla porta aerei, figurati, senza manco avvicinarsi. E il problema è che poi se succede la Cina entra in campo perché dice a me non mi va bene che ci abbiamo le radiazioni in casa, la Russia fa lo stesso che non gli va bene perché c'hanno le radiazioni, sono confinanti tutti e due, sia Russia mi pare che Cina, capito? È macello, eh. Il Giappone dice che stava muovendo le truppe, boh. Eh beh sì, in via precauzionale. Lo sai che comunque il Giappone viene difeso dagli Stati Uniti? Cioè c'ha un esercito minimo, diciamo, il Giappone, per via del trattato di... Che trattato è? Il trattato di San Francisco, San Francisco degli anni 50, dice che il Giappone si è impegnato a non avere un suo esercito se non minimo, giusto per la difesa dei confini. Per adesso ci pensano gli Stati Uniti a difenderlo. Infatti. Eccomi. Claudio, caro. Mi vuole, che fai? Adesso. Ehi, ma il cane è portato? Ehi, ha portato il cagnone, e poi normalmente qua che c'è la partita, e quindi ci sediamo qua e ce la guardiamo. Cazzo, c'era Filippo in televisione stamattina all'Arca di Noè. Vai via, glielo vedo, sì. Lo vedo sempre io. L'Arca di Noè, fanno vedere. Anche ieri c'era un bel film a Premium, dai Premium, con il fratello di Fiorello, praticamente l'ora di Scampia, l'avevo già visto. È un bel film. Uno di questi mafiosi c'era sempre appresso un gruppo di ingressi, aggiungimi a Filippo, ma te sicuroi. Ma qui hanno fatto una manifestazione oggi, ce n'erano poco di cuccioli belli, cazzo, tu li devi vedere, erano meravigliosi. I cuccioli bulldog te ne innamori subito, di tutti i molossi sono molto belli, dello sciarpini, sono molto belli. Quando diventano grandi c'è chi tiene quella linea, c'è chi cambia, capito, come i bambini appena nati. Sono bambini appena nati che sono bellissimi, poi quando cominciano a diventare mani pare di rescimentare. Oggi è buona anche la pancetta rossa, di lusso. È buona la pancetta rossa. Oggi ho sentito bene un chicco Inter. Ma l'Inter, guarda, credimi, è andata a finire proprio uno schifo totale. Sono convinto che entravate almeno in Europa League, anche nell'Europa League siete usciti. C'è solo vergogna, ma Romina non può cantare vittoria, che l'ha avuto lei poi in casa. Ha perso con l'Empoli in casa al Milan 2-1. Cosa vuol dire che è a capo? Proprio i milanesi quest'anno. Chissà che ce la faccia al Milan entrare in Europa League. E sia quarta, però c'è la Lazio che sta pressando forte. E l'Atalanta. Ma l'Inter proprio ne ha delusione, per carità di Dio. E la mai detto la fine a Giugiambato perché mi stava facendo proprio male. Non so cosa dirti, Clau. Non so cosa dirti, io la. D'accordo, la interista, guarda, lo schifo. Il figlio lo dico, c'è un'interista, però io le guardo tutte le partite, non ci ho mai guardato tutte. In Milan, in Napoli, a Sampdoria, al Cagliari, però l'Inter ieri, mamma mia, che pietà veramente, la paura. Avanti, Marco Pombo. E allora c'è Paolo Bonolis in lutto, mi, c'è lui un interista forte. E che l'altro che sta di un coso, come si chiama, Greggio? Iacchetti interista? Iacchetti interista, sì, infatti si attacca di nuovo con Greggio. Greggio era anche alla partita a Barcellona, l'anno quadrato, a vedere Barcellona-Juventus. Ci sarà anche stasera a vedere Juventus-Genoa, è sempre in Chivi. Eiaia. Va bene. Cosa stavate dicendo? Ma Valerio deve comprare l'antenna a Giuseppe, così è. Beh, la ordina Valerio, che era il mio, se la ordino io. È lì. Ordina Valerio, per arrivo, ci fa sapere. Andiamo e facciamo il lavoro. Mettiamo un altro piantone come quello che ho messo a Mattarino. La tiro su di un altro paio di metri, capito? Lui ce l'ha già piantonato a muro il nel tubo d'acqua, da mi pare che sia non so se da un pollice forse, vabbè, mettono il piantone da un pollice e mezzo, con un altro dentro da un pollice. La tiro su. No, anche lì viene un bel lavoro. Ma quello è Natalino è storico, quello passerà la storia. Eia, gliel'avete detto sì a Valerio, IEL elettronica e ha comprato tutto le lì. Sì. Non ha detto tutto Natalino, gli ha detto tutto Natalino, poi lui è cliente della IEL elettronica, quindi penso che non ci siamo problemi. Eia, ma anche il cavo va cambiato, sai niente? Ma il cavo usiamo quello che è avanzato a Natalino. Sì, tutto il cavo, allora cavo, piede, allora che siamo buono. L'antenna nuova con un cavo vecchio. No, infatti, magari metti che l'avesse messo al poco il cavo. E passano 20 metri? Sì. Non vedo anche adesso, perché ti ho mandato la foto alla finestra, sono una decina di metri. Eia. Va bene, dai, e poi per Giuseppe è un microfono bello amplificato, me. Proprio forte, perché lui parla certe volte piano, non si capisce alla radio, capito? Vabbè, tu devi capire che Giuseppe non c'ha l'età nostra, c'ha 88 anni, quasi 89, quindi non è che può mettersi a voce, è un uomo anziano, un uomo grande, quindi dobbiamo farci una ragione e cercare di sentirlo nella maniera in cui esce, che arriva abbastanza bene, e che lui magari parla piano, si allontana il microfono alla bocca, no? Se lo tiene attaccato con l'antenna nuova, con l'amplificatore che c'ha, arriva molto bene. Mi raccomando, sceglietegli un microfono che non esca a cuppo, un MB più 5 possibilmente, che è toni regolabili, capito? Che esca pimpante. Tanto mi questo lo mettiamo a rete, è una bomba lo stesso, non c'è bisogno di modifiche. Pensa che adesso è solo a 6, ma quando avete la 10 ha voglia. Non mi devo mettere il microfono a cavo, un microfono a palmo le metterò, ma usa il microfono a cavo, che non c'è spazio di niente. Un microfono da palmo lo metti un po' più sulla modulazione, basta. Ma cosa lo devi comprare? Non devi comprare niente. Non se ne fa niente, lui non c'è spazio, poi non ne frega niente. Ehi, che microfono va bene da palmo? Perché il DM1000 potrebbe uscire cupo, ma può darsi anche di no. Il DM1000 si mette lineare risente dell'RF, occhio. Meglio uno ZG a quel punto. Non viene mai per queste cagate, non se ne fa niente lui queste cose, usa come lasci un lecco lì. Un microfono, un integri di quella rotellina, qualcosa del genere, se trovo qualcosa che sia un po' più amplificata rispetto a un microfono normale, ma sempre nella media di quei microfoni, non so se quelli che dicevano la rotellina, cos'era, quindi lì, insomma, che sia un po' più amplificato e basta, non ne frega niente, non è un ragazzino a giocare con l'eco. No, lo ZG mio non ne ha proprio eco, per niente. E vabbè, prenderò un microfono del genere, quello era 20 euro, una cosa del genere così. Capito? Se no ce la metto a 100 io so per quello, ma non se ne fa niente con i microfoni, non ne frega niente, capito? Assolutamente. Non mi interessa fare le chiacchiere, piace ascoltare noi, parlare con noi, allora non c'è nessuno, mi parla solo con Valerio, cosa deve stare lì a dire molla. Eia. Bene, io vado a vedermi il telegiornale, anzi no, non me lo voglio guardare, ho deciso di no, non me lo guardo, tanto non è successo niente. No, non so, io mi ancora un po', e poi me ne vado a cenare, poi partita, domani, mamma mia, domani minimo devo uscire alle 6, domani partenza alle 6, c'ho l'APAS domani. Devo campionare il trattamento fai, devo farmi tutti i formulari, mamma mia cosa c'ho qua, madre nostra salvi la patria. Devi schiattare. Io? Io faccio schiattare, non devo schiattare, ricordatelo sempre, non confondere mai questa frase. Bene, dai. E in TV non c'è un granché oggi, sono le Iene, boh, passabili, non c'è altro, la partita non credo che sia in chiaro, no? Proprio per niente. No, perché adesso mi deve essere premio, bene, infatti mia moglie si guarderà le Iene, e io mi guardo la partita, lui è già tanto nemico. Vabbè, non volevo finire anche a stasera domani, benissimo, io non ti voto. Giovedì c'ho le visite mediche. Quindi uscire la stessa alle 6, farmi tutti i controlli, prima delle 2 essere a Sassari per fare la visita medica. Sonometria, elettrocardiogramma, naso, gola, orecchie, ma vaffan. Eia. Falli, falli che meglio farli i controlli. Vabbè, detto ciò vi saluto, dai. Ci sentiamo domani. Per oggi chiudo, dai. Ciao Luca, Natalino, Claudio e tutti quelli all'ascolto. Ciao, ciao Marco, e se Natalino si trattiene, se no chiudo anche io, ci andiamo a papai. E cosa avremo là? Poi, che voglio? Non sei l'ultima, no? Come? Non sei l'ultima! No, cosa è uscito? Cosa ti è successo? Ho sbrigato la radio in mano, mia figlia mi ha dato la spinta, che è fatta meglio un pezzo, sto frontale. No parole. Ce l'ho io. Mezz'ora fa è uscita da una caduta luce. Spero un attimo. Mandami la foto. No, vedo. Non è qualche giorno mi fate venire qualche infarto, cazzo. Ma sul serio? Cosa, Marco? Ho detto sul serio, sta dicendo i buffonendi. Io non lo so, lui certamente confidenza con me, che a volte mi prende per il culo, ma se fosse vero mi sono buttato da terra, perché in tre giorni con la radio l'ho fatta nuova, la vetrina, mentre fuori. E che radio è caduta, Clau? Oh, ma la radio Massimiliano, sempre, quella grande. Minchia, cazzo. Non lo posso niente. E se la Massimiliano non la fa, neanche. Claudio, ti sono cadute le braccia. Un'altra cosa è caduta. Le pallocchie gli sono cadute, dalla notizia mi. Un peccato, è proprio un peccato però. Ciao Valerio, stavo per chiudere ma mi sono intrattenuto un po', tanto il telegiornale è quello che... Mi sono arrivato adesso, mi sono spogliato, mi sono messo gente giava. E già va bene, e se tra poco ce ne andiamo a mangiare, ma cosa è successo? No, Massimiliano ha detto che ha pigliato la radio, il K, ha messo tutto a posto da Claudio, la figlia lo spinge e gliene cade la radio a terra in mille pezzi. Oh mia, vediamo che non sia vero, madre di Dio. No, che non posso sentire una mano. Vabbè, e pensa cosa, come si deve sentire... Come si deve sentire cosa allora, Massimiliano? A mezzanotte mi sono collegato a Matisse. Tutta nuova l'ho fatta. Niente fuori, non ci voglio credere. Massimiliano, dimmi di no, dimmi di no. Sta scherzandomi. Guarda se funziona. Sì, già funziona, già funziona. Oh, mi devi mandare la foto a me. Che foto ti mando? Se hai veduto l'ombra di fasciato, tutti i pomelli incazzati così, sto collando un po' di roba, aspetta. Cissimo, cazzo, me lo potevo tenere. Sembra che me lo sentivo, cazzo, me lo potevo tenere qua. E ce l'avevo su me, me lo stavo portando a casa, mi ha dato la spinta, allora sono andato giù, dove la radio? Cissimo. No, già stai uscendo. Anche bene, ma ascolta, hai provato a inserire il compressore del microfono? Guarda, dov'è il compressore inserito? È più forte, vabbè, la francese è anche fredda, più forte rimane. Vabbè, adesso la facciamo scaldare un pochino e poi la regoliamo col compressore. Sai che regolare, è già regolata, no? Toccare 5,5 il parametrico. Ok, se vuoi usare il compressore devi solo tirare sul tastino. È tutto regolata. Quanto poi da uccidere luce la tua frisi bruciò. Allora mazza, io te ne vai, ragazzo americano. Qualche giorno mi fai venire qualche infarto, tu, cazzo. Ma perché mi tratti così? Poi da... nell'esterno, ma non è frontale. Guarda, Juveccia. Vai, vai, hai fatto un brutto, vai. Lui, cercate di dire la vecchia radio, che numero va. Comunque, buonasera a tutti, va. Ehi, Massimiliano, Claudio si stava sentendo male prima, mi. Già che stavo ascoltando, va. Cazzo, sempre mi fa questi scherzi, era minchia lui. Ammazza, che te ne vai, ragazzi. Già l'altra volta, mi ha mandato i messaggi. Sono salito a prendere la radio. E tu, ma non gli hai fatto. Ammazza, te ne vai, ragazzi. Ma intanto bisogna anche tenerti, come si dice, aspetta, guarda un po'. professore. Morbido è adesso? Sì, sì, sì, qua. Sto usando un occhio nel microfono. Va bene, va bene. No, vedo che col compressore va meglio questo microfono. Sì, alla grande. Bella corposa modulazione, adesso ti danno un controllo anche loro. Un'altra cosa poi ti faccio girare. Ti eri accorto che il down e up non andava? No. C'è un filo staccato, dovevo risolvere, poi messo a posto. Adesso va anche il down e up, è perfetto. Bella luce o bella porta. Vale, come lo senti a Massimiliano? C'ho un po' di QRM. Devo mettere in conto anche quello. Il Santiago è 7, con più di 8. Siccome c'ho Santiago 5, 6 di QRM, se lo porta un po' appresso. Diciamo, comunque bene, dai. Vabbè. Adesso lo lascia scaldare un pochino per quella radio lì. Ma cosa non c'era da fare in quella radio? Io, se non quel microfono vale, avevi ragione. Non ho capito perché è diventato così. Madre di Dio, siccome era dentro. Quella la convenza. Mai, dico mai, ma lo dico per esperienza. Non mettete le radio in cucina, dove c'è condensa, dove c'è cose, capito? Dove si rovinano, soprattutto queste radio qua, ma anche un microfono tipo 60, 80, 85, microfoni professionali che hanno circuito di preamplificazione e hanno un sistema di alimentazione. Non usate lì dove c'è condensa, dove si rovinano. Era completamente tutto impastato dentro quel microfono, tutto impastato. C'era l'interruttore del compressore, vabbè, che manco nulla, era talmente duro, poi se riuscivi ad inserirlo non agganciava neanche di tutto quello che c'era dentro, quella proprio condensa, capito, di cucina. Ho dovuto cambiare interruttore, guarda, addirittura, cambiare interruttore. Fortunatamente con gli interruttori ce li ho perché sono un po' simili anche a quelli che mettiamo negli strumenti, accendi e spegni, capito? Ne avevo preso due o tre diversi anche da fusare. E meno male sono riuscito a sistemarlo con il microfono, se va bene. Marco, come lo senti tu a Massimiliano? Bene. Va bene, allora ci butto tutto, Marco. Ehi, a susto gli ha fatto prendere Claudio. Ci ho lavorato 16 ore in quella radio. Conta. A 16 euro l'ora come lavora Bianconi. E ci devo conto. No, mi è piaciuto quando hai detto, cazzo, mi sto sentendo male. Solo mi deve arrivare un dio grazie a me. Era mio pensatello con Claudio, con chi sarà Ravi. Io c'era Natalino che mi stava seguendo ieri sino a tardi. Proprio lavorando sul microfono, perché non riuscivo a togliere i piedi. Poi alla fine l'ho mollato perché mi facevano anche gli occhi, e l'ho ripreso più di domani. Adesso è tutto a posto. No, ma guarda, ho chiamato le foto, Marco, l'hai visto? Ho tutto pulito la crinina dentro prima, poi non si poteva toccare, era tutto impastato. C'era proprio quella condensa secca, capito, nel circuito stampato, la ventola era inchiodata, poi mi sono accorto che c'era la resistenza che fa partire il motorino bruciata, quindi ho cambiato quella, insomma, cosettine che si possono fare tranquillamente, certo altre cose grosse non ho le strumentazioni per poterle fare, ma insomma è uscita veramente bella, ma anche esternamente nuova, non c'è un graffio quella radio. Un po' revisionata così, insomma, la bella radio, due ritocchini alla DC, funziona bene. Ma come mi ha detto così, me stavo me lo curando a terra. Surcato, sì, ma ci a capita, mi ricordo la buon'anima di Carlo Titano, faceva il 440, nuovissimo, bellissimo, che penso che ce l'abbia ancora come ricordo, perché non lo voglio onorare, l'ho visto lampada. E mi ricordo una domenica mattina, Fulvio mi chiama, cosa c'è caro? No, devi scendere dal produttore, una cosa allucinante, cosa è successo? Non è successo qualcosa? Stavo spolverando, si è dato un colpo al 440, ne è caduto per terra, si è rotto tutto il frontalino. No, giudizio allucinante. allucinante. Allora c'era Guidetti ancora in forza, insomma, ho fatto miracoli tramite anche altre persone, e gli ho ordinato il frontalino, piano piano avevo cambiato tutti i pomellini, tutte le cose, ma guarda, la radio non aveva niente, ma il frontalino si è disintegrato, perché è di plastica, lo sai, no? Sì, ho visto che è in plastica, qua. Poi un po' se devo toccare qualcosa, qua, se adesso sta iniziando un po' a entrare in temperatura, se devo toccare qualcosa oppure no? No, non devi toccare niente, 5,5, sia Micheleva che parametrico, se usi il compressore inserito. Se togli il compressore lascialo sempre a 5 il parametrico, capito? No, 5,5. I toni li lasci alti e puoi usare sia il compressore del microfono, processore inserito, così come è regolato adesso, capito? Oppure puoi disinserire anche il compressore. Col compressore del microfono spingi un pochino di più. Guarda qua, così è senza il compressore, vuoi un po'? E così è tipo gli acuti e medio bassi del 60, mentre se inserisci il compressore è più acuti. Ok, così ho inserito il compressore, è meglio o peggio? No, la cuba è molto meglio. Va bene, allora lascio così. Marco, per te? Sì, se ci sono un tantino di acuti, quella radio non guasta. Troppi bassi ci sono? No, troppi no. Allora, cosa devo toccare secondo te? Nulla, lasciare il compressore, boh. Ah, ok. Va bene, ok, mi sa che sta iniziando la MotoGP però, eh? Mi pare 8,27 sono. Sì, Massimiliano, tenendo conto sempre quello che abbiamo deciso di fare, capito? 85, visto che a te non piace, si procurerà un 60, quindi sei più sereno, ma adesso devi tenere conto di una cosa e soprattutto tenermi informato. Se fa qualche difetto e controlla la temperatura con la radio, arriva la sua temperatura intorno ai 60 gradi anche meno, entra in funzione la ventola, appoggia l'orecchio e guarda se la ventola la senti, perché è molto molto silenziosa, che è praticamente completamente tutta revisionata, sia l'asse sia il motorino, capito? Tutto. Ma con quanto sta? E io. quanto? Chi? Ma se vediamo. Dimmi, qual è? No, sto dicendo, se stai pompando, con quanto stai uscendo? Le portate bianche, 25. Non fare più bene, già va bene. 25, vedete il conto, adesso, con l'accesa, 5-10 minuti, lasciala scaldare un altro pochino. Tienila in funzione, fammi sapere se la ventola la senti, perché io devo appoggiarci l'orecchio per sentirla. Molto più rumorosa quella del 440, vabbè che è una ventola posizionata diversamente. Però lì prima sentiva il rullo che girava, adesso non si sente più, capito? Perché è lubrificata. Già va bene, ok, dai, comunque, abbiamo un po' recuperata quella radio lì. A Trelina, micidiale. Che cosa non tocco? Come me lavata? Vabbè, me lavata, lavava secco. Mica mia moglie ha dato una bottiglietta di quello di succo di frutta, non aggiunga più. Ma se vai a comprare la costa questo cacchio di Trelina? Ma è acquaraggia o è diversa la Trelina dall'acquaraggia? No, la Trelina è quella che usano per smacchiare la lavasecco, è puzzolente, però è micidiale perché praticamente asciuga subito, capito? Quindi tu la metti in un barattolino, un pochettino, col pennellino, e spennelli tutta la parte dove devi pulire, poi la soffi con la bomboletta dell'aria. Ah, ho capito. Dopo guardo le differenze su eBay. Tra Trilina e Acquaraggia, se è diversa la formula chimica, qualcosa ci deve essere diverso. Sicuramente sì, perché l'Acquaraggia praticamente mangia, distrugge, questa è proprio fatta apposta per smacchiare, poi la passi sui contatti, li fa pulitissimi e asciuga subito, capito? Io però c'ho la bomboletta d'aria spray, la soffiata tutta, ma la ventola ne è uscito un coso di lana, proprio l'anella, no? Che se la porta. fa, lo fa. Ancora altro che, anche al computer lo fa. Un vero, vero. E poi, che poi girando così all'interno della ventola se la diventa la nella, capito? Però già tomava per foto. Bella pulita. Non te l'ha mandata Massimiliano la foto della ventola? Sì, me l'ha mandata, sì. Questa bella pulita, lucida. Sempre più inciurata, inciurata da quel praticamente umidità condensa della cucina, che poi i vapori acquei si ritira tutti dentro e diventano proprio una colla, una cosa, mamma mia, no, ma già quella lì, la prima volta che me la tornarono da chi sei tu, per carità, non voleva vista. Questa volta un po' meglio, però ancora c'era della sporcizia, ma ripeto, non perché uno sia per carità sporco, ma proprio nel punto in cui mettiamo queste radio si porta dentro, soprattutto se tu la usi in cucina, in posti così, si porta dentro la proprio questa cosa. Io mi ricordo, avevo comprato il ricevitore tramite un'altra persona che non voglio dire chi, della buon'anima di Mario Mao, un ricevitore HF che lui teneva in cucina. Questo ricevitore, allora, uno che fuma la nicotina non fa quello che ho visto io. Questo tu le fumi, le butti il fumo sopra, non diventa così. Questa radio era completamente gialla e appiccicosa, sia esternamente che internamente. I coperchi li ho dovuti prima tutti sgrassare col blaster, poi rilitigare e riverniciare, perché era una cosa impressionante da vedere. Il frontalino ho dovuto smontare tutto completamente, lavare col glass e con la trilina dentro, l'ho giovato due tappezzi, per poterlo pulire, era una cosa da non vedere. Quelli sono anche i vapori della frittura, mi. Che schifo. Esatto, Mancoli, esatto, proprio quello, cioè io da fumatore che fumo in questa stanza, ogni 15 giorni, 20 giorni passo un panno particolare con un prodotto proprio, perché c'è sempre la finestra aperta, quindi fumo verso la finestra, ma sul radio non ce l'ho avuto il fumo, e lo passo già sul panno o nei coperchi, appare sempre qualche cosettina, ma leggera di giallo. Ok, quindi tu immaginati questa radio dentro la cucina, proprio era sopra il frigorifero, una cosa da non vedere. Ci ho messo settimane per poterla mettere in esposizione, diciamo così, perché avevo vergogna venisse qualcuno e vedesse questa cosa orrenda. Eia, ma funzionava dopo? Alla grande, l'ho anche venduta perché era un bellissimo ricevitore della Trio Kenwood, enorme, grandissimo, molto bello, l'ho fatto nuovo, sai, lì è nuovo. La mia fortuna è che i vetrini degli strumenti, no, si potevano smontare, quindi li ho smontati, c'erano delle vetrine fini, piccole, smontati tutti sempre con lo sgrassante, no? Quello gallo d'oro, come cazzo si chiama, quello lì, il micidiale. Ho fatto i vetrini luci, pomelli, tutti a spatola li ho dovuto fare, spattolino e glass, ma l'ho fatto nuovo. E poi l'ho riverniciato quasi dello stesso colore suo, perché era un grigio un pochino più chiaro, grigio vecchio che faceva la Trio Kenwood rispetto a quello di adesso, dei K, capito? L'ho trovato un po' così, l'ho riverniciato. È uscito nuovo, l'ho venduto perché avevo una vecchietta, quindi l'ho venduto. Ma ci ho messo settimane prima di farlo, di renderlo, insomma, efficiente. Ogni appento, eh? Oh, Valerio. Veramente, mamma mia, che pazienza, ci vuole la tua pazienza. Ma guarda che non è la prima volta che faccio. certe cose. Sai quante volte me le danno? Ma qua tu mettimi la posta, me ne hanno portato una volta, mi ricordo, mi pare Massimiliano c'era, completamente rugginosa, proprio non voleva vista, l'ho tutta rifatta nuovo. Adesso una stronzata, l'Alan 48 che mi ha dato Eugenio a mettere a posto, che io non ho toccato perché non sono capace, non è compito mio, quindi non niente. L'ho data senza coperchi a un tecnico che sta cercando di trovare questi trimerini per metterli a posto. Allora, ho rifatto i coperchi, me li ho portati al lavoro, in officina, un giorno che non avevo molto da fare, io completamente con la moletta smerigliatrice li ho portati a ferro. Poi li ho appesi, ho preso il compressore con il colore quasi suo, li ho fatti nuovi, ma so se li è nuovi, meglio di quelli che vendono. Ehi, c'è molta pazienza, dai, per quelle cose lì. Cosa che io non ho. In cucina no, assolutamente la radio in cucina no, non esiste, troppi. E i vapori della bollitura, e poi i vapori anche della frittura sono micidiali. Quelli poi diventano anche appiccicosi, capito? Bene, dai. Riprendi Valerio che io quasi comincio a chiudere, dai. Tanto fra poco iniziamo le Iene, se non voglio guardare le Iene mi metto un mio film e passo la serata. Stai parlando qualcuno, ma io sento gente parlare. No, io riprendo però faccio pure sì, sono già le 8:20 e me ne vado a mangiare. Sì, che ciao a tutti, buona serata, buon divertimento per Claudio. E ci sentiamo domani. Riprendi Claudio. Sono le 8:20 e non le 8:20. Quindi anch'io vi saluto e vado a cenare, dai, poi mi guardo la partita. Massimi, ci aggiorniamo telefonicamente e niente, non mi va più a sopra che io sono anziano, già lo sai, poi faccio la fine del signor Davide. Ciao Marco Lì, ciao a tutti quelli che sono in ascolto, QRT per me, a domani, baci e abbracci a tutti. E io, anche io, vi saluto, buona serata, buona continuazione di tutto, io qua lascio acceso e me ne passo un ascolto un po' di là, va bene, ciao a tutti. Ciao Massimo, ottimo sta scaldando, perfetto, ottima modulazione, ciao, ciao Vale, ciao Marco. Ciao a tutti anche da parte mia, QRT. Ciao Nathalie, ciao a tutti. Ciao Cuocomani, ciao alla prossima, ciao. Tutti Cuocomani che non siete altri, ciao. Ciao Lugarie. Ciao Claudio. Ciao a tutti, ciao. Nathalie, quel disturbo sempre ce l'hai. Eia. Con quella gente non hai risolto? No. Va bene, ok, dai, vi saluto, faccio acceso che così inizia a scaldare un altro pochino. Ciao. Ciao Massimiliano, se no sarà poi il fuoco. Ho già fatto il fuoco, c'è il fornellino sotto. Ah, così è. Bravo, alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Ciao.